Tempo di sport con Carlo Genta. Buonasera a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Filippo Aureggi in regia. E l'Inter che rimane attaccata con la calamita alla testa della classifica. Al Milan non riesce il sorpasso, anzi Milan che soprattutto nel primo tempo rischia molto in casa con il Napoli. Finisce 1-1 questa partita. Questi risultati dunque: Atalanta batte Livorno 3-0, Livorno ora solo in fondo alla classifica. Facile la vittoria dell'Atalanta, Livorno davvero troppo remissivo per una squadra che si sta giocando le ultime carte sul tavolo della salvezza. 3-0 come detto, al 13° Padoini in tapina e nel secondo tempo al 5° Guarente a innescare Cevanton per il 2-0, bellissimo lancio filtrante di Guarente che tra l'altro è protagonista anche del terzo gol con una punizione dalla tre quarti che pesca sul secondo palo Ferreira Pinto. Dunque Atalanta batte Livorno 3-0. Finisce 1-1 tra Bari e Parma, due squadre che non hanno più, io credo, particolari obiettivi. In vantaggio il Parma al 36esimo con una fuga sulla destra di Zenoni e sulla conclusione molto decentrata di Zenoni, Belmonte, difensore del Bari, che anticipa il suo portiere Gillet. Autorete, secondo me, comunque vantaggio del Parma. Nel finale invece di partita, il pareggio di Andrea Masiello che va a chiudere un triangolo con Kamata e segna il gol dell'1-1. Importantissimo il successo della Lazio senza psicologo, l'aiuto del, come sapete, rifiutato l'aiuto dello psicologo. Ebbene, la Lazio va a vincere 2-0 sul campo di un Cagliari che, insomma, nessuno mi toglie dalla testa, non abbia nessuna voglia di fare scampagnate in giro per l'Europa. Sapete, c'è stata la buttata di Celdino in settimana. Se perdiamo con la Lazio rimborso i biglietti, dovrà rimborsarli, non so se lo farà, non so se qualcuno chiederà il rimborso. Fatto sta che la Lazio, incredibilmente, senza troppa fatica, almeno a vedere le immagini della partita, vince 2-0 a Cagliari, segnando subito primo gol di giornata. Rocchi, dopo 4 minuti, al 37esimo, Floccari si infila tra due difensori del Cagliari e batte Marchetti in uscita. Nel secondo tempo la Lazio potrebbe anche trovare il terzo gol e la reazione del Cagliari onestamente non è un granché. 1-1 tra Chievo e Catania. Il Chievo gioca una splendida partita almeno fino al gol del vantaggio al 19esimo della ripresa, dopo aver sciupato tante palle gol. Pellissier riesce a far fruttare un lancio di Marcolini battendo Kosicki, che oggi difendeva la porta catanese, sul suo palo, con qualche responsabilità dell'estremo di Sinisa Mihajlovic. Al 29esimo, l'unico rigore di giornata, ed è anche piuttosto dubbio, c'è un incrocio tra Yepes e Maxi Lopez che inciampa probabilmente sul suo stesso piede. Giannocchero concede il rigore, Maxi Lopez trasforma 1-1 questa partita, ma soprattutto è 1-1 la partita di San Siro, la più attesa della giornata, tra Milan e Napoli. In vantaggio ci va il Napoli al 13esimo, Lavezzi percussione sulla destra, scontro abbastanza comico tra Oddo e Abbiati, palla messa all'indietro per Campagnaro che arriva a rimorchio da centro area, piatto a porta vuota e gol dell'1-0 per il Napoli, che come detto gioca un grandissimo primo tempo che mette alla frusta la difesa del Milan, che costringe Abbiati ad almeno un paio di interventi non facili. Però al 26esimo cross dalla sinistra di Ronaldinho, pennellato per la testa di Filippo Inzaghi, che manco a dirlo timbra la partita, rientrava come titolare dopo un sacco di tempo e segna Filippo Inzaghi il gol dell'1-1. Nella ripresa, partita strana, molto, molto frantumata, passatemi il termine, con tante occasioni da gol. Napoli non più così ordinato dal punto di vista tattico, nel primo tempo aveva controllato il centrocampo e occupato benissimo gli spazi, riusciva a ripartire con grande pericolosità la squadra di Mazzarri. Nella ripresa una partita un po' più spezzata in due, con tante occasioni da gol, con il Napoli che comunque è riuscito ad avere le sue, con il Milan che ha premuto soprattutto nel finale nel tentativo di cercare il gol che poi non è arrivato. Pato tra l'altro si è fatto male di nuovo dopo pochi minuti del primo tempo, quindi ricaduta probabilmente dall'infortunio muscolare, dal problema muscolare che l'aveva tenuto fermo a lungo. E dunque, nonostante questo assalto finale del Milan con Huntelaar in campo, con tutta l'artiglieria a disposizione di Leonardo, finisce 1-1. da segnalare un paio di grandi parate, una di Abbiati su una conclusione a distanza ravvicinatissima di Quagliarella, Abbiati che sceglie perfettamente il tempo dell'uscita e riesce a parare questa conclusione di Quagliarella, poi sostituito con un grande intervento. E c'è anche un'altra grande occasione per il Milan con Mancini che da posizione favorevole, Mancini che è entrato al posto di Pato, Mancini riesce a sparacchiare addosso a De Santis in uscita. De Santis che nel finale non mi è sembrato sicurissimo su una punizione da molto lontano di Pirlo, palla non trattenuta in maniera piuttosto pericolosa, e poi un altro paio di sbavature del portiere del Napoli che a momenti costano caro alla squadra di Mazzarri, che nulla ruba con questo pareggio meritatissimo. Il Siena, insomma, il Siena merita un applauso perché proprio non vuole morire, non vuole arrendersi al destino della retrocessione, riesce a battere il Bologna di misura 1-0, gol all'inizio, l'undicesimo di Larrondo, primo gol in Serie A per lui, punizione dalla tre quarti destra, battuta in mezzo all'area e stacco di Larrondo per questo che sarà poi il gol partita. E Siena che comunque mantiene vive, innanzitutto non è più ultimo, mantiene vive le sue speranze di salvezza. Classifica dopo 29 turni alla vigilia del turno infrasettimanale, come sapete, che porterà, che insomma sulla carta potrebbe essere favorevole all'Inter, che riceve il Livorno, un Livorno che oggi ha fatto davvero una pessima partita a Bergamo, Inter che riceve il Livorno, Milan che va a Parma e la Roma che va a Bologna, quindi due trasferte per le inseguitrici. Vigilia di un turno infrasettimanale che cui arriveremo con questa classifica. Inter 60, Milan 59, Roma 56, Palermo 47, Juventus che questa sera gioca, come sapete, nel posticipo contro la Sampdoria in un clima non semplicissimo, io immagino, un clima di grande contestazione, di grande tensione. Sampdoria che insegue la Juve di un punto, dietro di un punto, 44 punti, Napoli e Genoa 42, Fiorentina 41, quindi pancia della classifica per Cagliari e Bari 39 punti, Parma 38, Chievo 36, Bologna 35. Io credo che ormai la lotta per la salvezza sia ristretta a Catania 32, Catania che peraltro anche oggi dopo la vittoria sull'Inter ha portato a casa un pareggio prezioso a Verona, Catania 32 punti, Udinese 31, la Lazio con questa vittoria si toglie la scimmia dalla spalla almeno per questa sera e fino a mercoledì e sale a 29, quindi in zona rossa rimangono Atalanta e Siena appaiate a 25 punti e Livorno a 24. Già che ci siamo, vi do anche il prossimo turno, visto che è a stretto giro di posta, si gioca mercoledì 20:45. Le partite saranno Atalanta-Cagliari, Bari-Sampdoria, Bologna-Roma, Catania-Fiorentina, Genoa-Palermo, Inter-Livorno, come detto, Lazio-Siena, partita salvezza se ce n'è una, Napoli-Juventus, Parma-Milan e Udinese-Chievo. Questo è il turno che ci aspetta alla vigilia poi del confronto diretto tra l'Inter e la Roma. Roma che insomma, è la vera vincitrice di questa 29esima giornata, l'unica squadra che è riuscita ad approfittare dell'ennesimo pareggio dell'Inter a Palermo. Inter che viaggia piano, viaggia lento con un trattore, come sapete, nelle ultime 7 partite, 5 pareggi, una vittoria, quella di Udine e la sconfitta di Catania. E Milan che non riesce ad approfittarne. Sono curioso di sentire anche la vostra opinione su questa corsa scudetto, su questa partita, su questa occasione tutto sommato sprecata dal Milan, che comunque resta. Insomma, domenica scorsa vince 1-0 con il Chievo, segnando con Seedorf nel tempo di recupero dopo una partita non memorabile. Oggi partita di tanta voglia contro il Napoli, molti rischi presi, un primo tempo in cui il Napoli ha giocato meglio, una ripresa in cui il Milan le sue occasioni le ha comunque costruite. Non mi sembra in questo momento comunque una squadra in grado di operare quantomeno un sorpasso definitivo. Questa è la mia impressione, la rimando a voi, 800 24 00 24 per le vostre telefonate, messaggi 349 238 6666. Subito dopo il traffico cominceremo a parlare insieme delle partite di oggi. Strade in diretta. Code per lavori sulla A4 Brescia-Padova in direzione Brescia tra Sirmione e Brescia Est. Per un altro cantiere, code sulla diramazione Gallarate-Gattico tra gli svincoli di Sesto Calende e Besnate in direzione della A8. E ancora per lavori, code di 2 chilometri sulla A14 Adriatica verso Bologna tra Imola e Castel San Pietro, mentre sull'Autosole si viaggia in coda tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione Napoli. Il traffico inizia ad intensificarsi ovunque, in particolare ci sono rallentamenti sul grande raccordo anulare di Roma tra la Casilina e la Tuscolana in carreggiata esterna. Il nostro numero verde per le segnalazioni 800 08 3622. Strade in diretta torna tra mezz'ora. Tempo di sport. Ho già ricevuto un sacco di messaggi. Milan che rischia di pagare caro la ricaduta di Pato, il fatto che si è già fatto male a metà del primo tempo significa che recentemente non è mai stato bene, significa essenzialmente che non era guarito. Pato, Milan da sinistra scricchiolì, saltano i tendini addirittura, come ben sapete, come storia recente. Oppure c'era una volta il Milan che faticava con le piccole e non sbagliava le partite importanti, ora è tutto il contrario, come si fa a pensare di poter vincere il campionato con questa squadra? Domanda via SMS Mario. C'è anche chi scrive Cagliari e Valerio, il Cagliari d'ufficio indagini, oppure c'è chi, come Giacomo, scrive rispetto alla Lazio al rifiuto dei giocatori di fronte all'ennesima follia di Lotito, oserei dire che la vittoria è il migliore psicologo possibile. Rimaniamo sulla gara di San Siro, andando da nostro inviato Dario Ricci. Ciao Dario. Ciao Carlo, eccoci da San Siro, l'1-1, lo ricordiamo, deciso dalle reti di Campagnaro al 13esimo e da Inzaghi al 26esimo. Abbiamo subito un ospite, Luigi Garlando, inviato della Gazzetta dello Sport, a cui chiediamo un po' una lettura di questo pareggio. Sorpasso mancato per il Milan, ma partita che ha anche dimostrato che la coperta rossonera è inevitabilmente corta quest'anno. Che sensazione lascia questo pari, Luigi? Sì, il risultato è giusto e ci si aspettavano anche le difficoltà del Milan. La coperta è corta e con uno schema così dispendioso è spesso difficile da sostenere, soprattutto contro un Napoli che ha ammassato gente a centrocampo. Quindi il Milan ha sofferto nel primo tempo, ha fatto un po' meglio nella ripresa, però insomma è destinato per l'organico che ha, per la struttura che ha, a lottare tutte quelle partite. Gli è andata bene col Chievo l'ultima azione, poteva andargli bene ancora qua e fare il sorpasso, non è andata male, ma non è una tragedia e neanche una sorpresa. Insomma è un Milan tra virgolette che ha i suoi limiti, sa di averli e dovrà combattere così fino alla fine. Sì, coperta corta, dicevamo, l'infortunio di Pato ha evidenziato appunto con i limiti della panchina un Mancini sicuramente non all'altezza, tanto impegno, ma rimane negli occhi soprattutto quell'occasione alla mezz'ora del secondo tempo, calciata su De Santis in uscita, magari un giocatore già Pato, ma un giocatore un po' più freddo avrebbe provato un colpo sotto, no? Sì, sarebbe ora di capire anche che cosa ci ha fatto, che ha saltato Manchester, sembrava che potesse essere recuperato, oggi ha giocato un quarto d'ora e la coperta corta non è solo Pato, è anche soprattutto gli esterni che un tempo erano la forza di questo Milan e oggi quando si avvicendano sono sempre quasi sempre più contestati. Jankulowski l'ultima volta, adesso Oddi è uscito tra i fischi dopo una prestazione sconcertante, Zambrotta avrà passato alla metà campo una volta sola. Insomma, quando le squadre poi di regola ti bloccano Pirlo, ti bloccano Sedor come ha fatto oggi il Napoli, gli esperti e gli esterni non spingono, arrivare in porta diventa una faticaccia. Infatti il Milan a segnare fa sempre una grande fatica, pensiamo alla partita di Roma che ha dominato però poi non è mai riuscita a concretizzare la sua superiorità. Entriamo in ambito pagelle, migliori in campo invece tra i rossoneri secondo te? Grandissima la prestazione di Flamini, perché non avesse fatto questa prestazione, come dicevamo, con la necessità di tamponare i 1000 indiani di Mazzarri che arrivavano da tutte le parti, il Milan probabilmente sarebbe uscito senza neanche un punto. E poi Pippo Inzaghi, perché al di là del gol ha recuperato forse più palloni oggi che in tutta la sua carriera, aveva una gran voglia di far bene, si è sbattuto e quindi questi due io li metto sopra gli altri, almeno a livello di 6 e di 7 e mezzo. ai nostri promossi, Carlo, anche Thiago Motta, che ha cercato di fare l'uomo ovunque tra difesa e anche attacco, quasi finto centravanti. In casa Napoli invece Luigi, un Napoli che è sembrato quadrato, compatto, anche un Quagliarella che finalmente si è anche mosso bene, pur con lanterne e fortune. Sì, spendo anch'io una parola veloce per Thiago Silva, che a me incanta sempre da ammiratore del calcio, anche per l'eleganza che ha, è veramente uno dei migliori del campionato in senso lato. Del Milan, del Napoli, ancora un grande Lavezzi, comunque, che ha fatto tanto, oltre ad aver innescato l'azione del gol, bravissimo anche Pazienza, che ha chiuso e cancellato Seedorf, e Campagnaro, che oltre al gol anche lui ha vinto almeno 1000 confronti diretti, veramente un animale da combattimento ed è il simbolo di questo animo di Napoli di battaglia di Mazzarri, che ha meritato ampiamente il suo punto. Grazie a Luigi Garlando. Dario, scusami, puoi tenerli un attimo perché volevo fare una domanda rapida. Io l'ho letto con grande attenzione quanto ha scritto sulla Gazzetta di oggi, dispetti di primavera. Chiedi soltanto se è ancora convinto che sarà una primavera esaltante per il nostro campionato e se in questa primavera il fiore migliore è la Roma o il Milan. Allora Luigi, leggevamo oggi il tuo commento, la tua analisi sulla primavera del calcio italiano, che immagini Florida, sarà veramente così, sei ancora convinto dopo quello che abbiamo visto oggi, e quale può essere il fiore di questa primavera, la Roma o il Milan? Ma sai, noi poi giochiamo anche a scommettere, a sperare, anche perché se non si apre il campionato si vendono meno giornali, quindi è un po' una speranza forzata. Però effettivamente più che le forze di chi rincorre, forse fa sperare le difficoltà dell'Inter, una vittoria in 7 partite, insomma, fa capire che ci sono le difficoltà, la Champions ruberà energie, quindi insomma margini per sperare ci sono. Io resto però dell'opinione, l'ho scritto anche oggi, l'ho sempre scritto, che l'Inter è di un altro piano e quindi secondo me vincerà questo campionato, però possiamo illuderci che ci sarà un combattimento, questo sì, io quello che mi auguro. Grazie, cioè, se sono rose fioriranno, sì. Carlo, intanto primo giorno di primavera, Inzaghi regala, esatto, il primo gol, quindi è per lui, ecco, ha svernato almeno. Tra l'altro Inzaghi che l'ultimo gol l'aveva fatto all'andata con il Napoli, quindi non ha segnato per un girone intero, ma anche perché segnare dalla panchina diventa difficile, no Dario? C'è chi scrive, Miki, a Mantino Mazzini una sola domanda, perché? Risposta è facilissima, perché non ce ne sono degli altri nel Milan di oggi, ma l'hai detto tu prima, no? La coperta del Milan è corta, i tendini saltano, la fatica si sente, la carta d'identità pesa, perché pesa fatalmente. A questo proposito, altra cosa curiosa che andrebbe analizzata è, insomma, sono i pensieri sul Milan che verrà, che sembrano ripartire. Chiaro che serve un difensore centrale, anche perché Favalli si ritira a fine stagione e al Milan arriverà Iepes. Bel giocatore, peccato che anni, 34, difensore centrale del Chievo, bucaniere di 1000 battaglie di tanti campionati, sta giocando una grande stagione, è vero, però non mi sembra esattamente un tentativo di ringiovanimento. Non se ne è parlato lì in tribuna stampa? Ma guarda, sicuramente sì, sì, se ne è parlato in termini umoristico, perché è chiaro, anagrafa alla mano rispetto a Favalli, la battuta che circolava e che già avevamo fatto anche noi, che si guadagnano 4 anni, perché sono 38 quelli del professore. Sì, sì, sì, ah, sicuro. Però la media si abbassa un pochino, questo è vero. Ecco, se magari ne prendevi uno di 22 e facevi, da quel punto di vista, guadagnavi ancora di più, è chiaro che Iepes è a parametro zero e questo, certo, vuol dire qualcosa sulla volontà poi della proprietà. È la politica del Milan che non cambia al di là di tutto quanto si può dire. Leonardo con Sky. Forse un quarto d'ora del primo tempo, perché sinceramente anche il cambio così subito di patto un po' ci è sballato. Abbiamo pensato una partita in un certo modo, dover fare un cambio sempre un po' c'è da assestare una squadra, però credo che specialmente il secondo tempo la squadra ha spinto sempre, ha cercato sempre, credo che c'è niente da rimproverare, a parte il risultato che abbiamo sfiorato con tanta voglia, diciamo, il secondo tempo. Quello di oggi può essere considerato un Milan da scudetto nella tua testa o ci vuole qualcosa di più? Lascia stare il risultato, andando al di là del risultato. Sicuramente per vincere ci vogliono tante cose. Io credo che la squadra oggi ha dimostrato ancora una volta, diciamo, un gioco competitivo. Abbiamo affrontato anche una squadra che si è comportata molto bene in fase difensiva e con giocatori di grande qualità e velocità, principalmente nelle ripartenze, perché non era facile affrontare, diciamo, il Napoli. E secondo tempo abbiamo subito poco, e a parte quella quarta d'ora del primo tempo credo che abbiamo controllato molto bene la partita. Dopo poi vince, poi perde o pareggiare, però non credo neanche che sia oggi che l'avrebbe, diciamo, definito il vincitore finale. Io credo che dobbiamo pensare partita dopo partita. faccio due domande in una, poi ti lascio allo studio. Sei ottimista comunque guardando al futuro, e cosa si è fatto Pato? Perché insomma abbiamo parlato di questo infortunio dopo pochi minuti. Non lo so, ha chiesto il cambio, sembra la stessa gamba che ha avuto il problema, ha fatto allenamento ieri, non aveva niente, ovviamente ci ha sorpreso un po' che subito diciamo abbia risentito il suo problema. Dobbiamo valutare, non lo so, sinceramente non lo so, dispiace perché è una cosa che va per le lunghe, che si ripete così, dobbiamo valutare bene e sicuramente definire bene quella situazione, perché purtroppo è una situazione che non va bene. Leo, però... ottimismo? E sarebbe anche ora che capissero veramente cos'ha questo giocatore di 19 anni che ha più problemi fisici, ha avuto nel recente più problemi fisici di un reduce della Grande Guerra, insomma. Segno, ripeto, secondo me al di là di tutto che oggi non era perfettamente guarito, quindi a qualche interrogativo bisognerà trovare risposta. No, Dario Ricci, prova ad assumere sommarie informazioni su Pato, anche se credo sarà complicato saperne qualcosa. Sicuramente il fatto della ricaduta, il fatto che dopo appena un quarto d'ora sia uscito, non fa presagire niente di buono, e probabilmente in settimana si tornerà poi anche a discutere sulla valutazione fatta nei giorni precedenti di questa sfida, sulla reale opportunità di metterlo in campo, perché insomma già sapevamo che quella dell'ipotetico recupero del Manchester era più un giochino psicologico per creare un po' di tensione, un po' di schermaglie tattiche alla vigilia. Con questa rosa diventa indispensabile, ma se poi lo perdi da qui magari per un mese o fino a fine stagione, allora non vale la pena forzare questi recuperi. No? Naturalmente. Grazie a Dario Ricci, dunque, nostro inviato a San Siro. La domanda chiave mi sembra sia stata quella fatta dal bravo Alessandro Alciato a Leonardo: ma hai avuto la sensazione che questo sia un Milan da scudetto? La risposta l'avete sentita anche voi, perché la sensazione, onestamente, guardando questa partita, è che non sia un Milan da scudetto, al di là di tutto e al di là del fatto che se l'Inter continua ad andare così piano, prima o poi qualcuno la becca, che sia il Milan o che sia, secondo me più probabilmente, la Roma, lo vedremo. Gianni, provincia di Lucca, primo ascoltatore di oggi, poi Danilo da Genova, 800 24 00 24, vi ricordo, numero verde. Gianni? Pronto? Pronto, buonasera. Pronto? Dica. Oh, buonasera. Buonasera. No, volevo dire solo questo. Innanzitutto complimenti al Milan, ma io sono interista. Secondo me inconsciamente l'Inter ha rallentato perché è perfettamente consapevole della propria superiorità. E lo sento anche di sera, quando per 10 minuti praticamente un fortissimo Palermo in casa era letteralmente in barca. Diciamo che inconsapevolmente l'Inter è troppo sicuro della sua forza e sono pronto a scommettere almeno 6 punti di distacco dalle due alla fine del campionato. Guarda, il mio pensiero è lo stesso, anche se non sono interista, però il mio pensiero è lo stesso. Non che l'Inter abbia consapevolmente rallentato, perché rallentare fino ad avere il Milan a un punto con la possibilità del sorpasso sarebbe pura follia, no? Puro masochismo. È anche vero che è difficile gestire, stare sempre in testa e gestire margini di vantaggio spesso molto ampi, con ovviamente distrazioni europee, piacevoli distrazioni europee, con grandi impegni europei in giro. Insomma, l'Inter non è stata l'unica grande squadra d'Europa a rallentare in questo scorcio di stagione. Più volte abbiamo ricordato come nelle ultime settimane stesso Chelsea e il Manchester United abbiano perso dei colpi in Premier League, con l'Everton che ha battuto entrambe, e non è uno squadrone l'Everton. Lo stesso Barcellona si è fatto raggiungere dal Real Madrid, ha avuto i suoi intoppi in campionato. Insomma, non sarà un caso se il double a vittoria di campionato e di Champions League sia riuscito solo a poche grandissime squadre. Quindi delle difficoltà sono fisiologiche. Una marcia così lenta dell'Inter onestamente sorprende, anche se sono abbastanza diversi secondo me i tanti pareggi in cui è cascata l'Inter di recente. Ancora un pizzico di Leonardo, cosa stava dicendo? La squadra alla fine, anche se rischia qualche situazione o tante volte non trova il suo equilibrio per dominare diciamo tanto tempo, anche perché giocavamo con Napoli, non dimentichiamoci mai che giochiamo con una squadra importante, però credo che ci sia una voglia di mantenere un'identità, e quello sicuramente ci risolvono tanti problemi. Dopo la differenza dei giocatori è normale, Pippo è un giocatore che oggi si è sbattuto, ha fatto di tutto, ha corso, ha fatto diciamo tutto quello che poteva, e anche un gol. Giovanni ha due cose velocissime a farci vedere sul Milan e poi ti lasciamo. Queste le parole di Leonardo. Danilo da Genova, buonasera. Buonasera dottor Genta. Danilo interista. Prego. Ecco, innanzitutto complimenti per la trasmissione e poi le voglio dire che da diversi anni che seguo la sua trasmissione, sì, puntualmente ogni domenica. Benissimo. Le volevo dire questo, niente, io sto notando che da diversi anni, dalla gestione Mancini, che febbraio-marzo l'Inter periodicamente crolla fisicamente e diciamo, nonostante che stimo tantissimo Mourinho, devo dire questo, che non capisco la gestione del turnover, cioè si è giocato martedì col Chelsea e gli stessi 11 Mourinho li ha riproposti ieri sera a Palermo. Cioè non vorrei che ha fatto giocare la stessa linea avanzata, Pandev, Milito e Snyder, la stessa linea difensiva, Lucio, Samuel. Diciamo, non vorrei che si arriva alla partita col CSKA, che è una squadra che inizia adesso il campionato ed è più fresca, e tenendo conto che abbiamo ancora l'infrasettimanale con Livorno e sabato la Roma, se sì, riproponiamo, se diciamo, se Mourinho si intestardisce a far giocare sempre gli stessi 11, non vorrei che arriviamo a mercoledì col CSKA che siamo senza benzina. È un difetto che riscontro sempre nelle squadre di Mourinho, di Capello e di Lippi. Intestardisce a far giocare sempre i migliori 11. Ma andiamo poi indietro, anche Arrigo Sacchi, Van Basten non lo levava neanche quando aveva 40 di febbre e si era appena scavigliato. Insomma, gli allenatori si fidano dei loro grandi giocatori, si fidano dei loro titolari, soprattutto nei momenti chiave della stagione. Quindi non è né solo Mourinho né solo Capello, guardi caso, sono tutti dei grandi allenatori, no? Su cui ruota questo discorso. È chiaro, nei momenti chiave della stagione, con chi vai? Vai con i migliori, vai con i giocatori di cui ti fidi di più. Poi è chiaro che le forze vanno dosate. Lo stesso Ancelotti, insomma, quando doveva vincere con il Milan i campionati delle Coppe dei Campioni, non si scappava da quegli 11 che erano poi i titolari, no? 800 24 00 24, ci fermiamo un attimo, poi di nuovo qui. Radio 24 presenta Destini incrociati, incontri che cambiano la vita. Uno scrittore eccentrico e amante del jet set newyorkese. L'impatto col massacro di una famiglia di agricoltori del Midwest ad opera di due disperati. Truman Capote, lo scrittore, e Perry Smith, l'assassino. Domani a Destini incrociati. Destini incrociati. Tutti i giorni alle 15 e alle 23 su Radio 24. Quando ho iniziato, le lettere si scrivevano in un altro modo. Anche per telefonare era diverso. E molti documenti si inviavano così. La tua attività si è evoluta e il tuo conto corrente. Scopri la nuova offerta di Poste Italiane dedicata alle piccole e medie imprese e ai professionisti. BancoPosta in proprio web. Il conto veloce, semplice e conveniente pensato per chi opera online. BancoPosta in proprio web. Per chi non ha tempo né denaro da perdere. Poste Italiane. Fogli informativi negli uffici postali e su poste.it. Chi dice che le tecnologie pensate per il futuro non sono ancora disponibili o costano troppo? Oggi Volkswagen presenta Blue Motion Technologies, un insieme di innovazioni nate per farci risparmiare, ridurre i consumi e limitare le emissioni. In più, nei Blue for Your Days, fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma Blue Motion Technologies. Inoltre Polo e Golf B-Fuel con impianto GPL al prezzo del benzina. Vieni anche sabato 20 e domenica 21. Perché l'ambiente è di tutti. E anche la tecnologia che lo difende deve essere per tutti. Solo a marzo. Vai su Volkswagen.it. Purtroppo da noi non c'è la DSL. Non hai internet? Vai col satellite. Vai con Two-Way. Ovunque, subito e conviene. Da casa o dall'ufficio. Chiama l'866 7020 o cerca su Google Two-Way. 866 7020. Ovunque, subito. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. Domani al nord altra giornata grigia con piogge sparse, più insistenti su Piemonte, Lombardia e Triveneto e in esaurimento a fine giornata. Prevalenza di sole su Ionio e Sicilia, nuvolosità irregolare nel resto della penisola e in Sardegna con isolati rovesci su Toscana, Umbria, Appennino e verso sera nelle Marche. Temperature minime in ulteriore aumento al centro-sud e sempre miti per la stagione. Massime stabili in lieve calo, fino a 17-19 gradi sulle regioni peninsulari, 22-24 gradi in Sicilia. Venti meridionali da deboli a moderati. Per maggiori dettagli consultate meteo.it e per il meteo è tutto. Qui è l'antropologo Erminio Balladori che vi parla dalla giungla d'asfalto. Sto studiando un'interessante tribù, i doppiafilisti. Una loro tipica usanza è bloccare le auto altrui posteggiando in seconda fila e immolando denaro in contravvenzioni. La tribù Linear invece non spreca denaro, ma può risparmiare fino al 40% sull'RC Auto con il premio bloccato per 2 anni. Entra nella tribù Linear. Per un preventivo gratuito vai su linear.it oppure telefona all'800 1122. Bene, si concentri, domanda finale. La sua vita potrebbe cambiare. Qual è il marchio vincente noto a tutti per le idee geniali? Foppa Pedretti. Risposta esatta! Cambia la vita. Apri nella tua città un negozio in franchising l'albero delle idee. Foppa Pedretti. Vai su foppapedretti.it. Marco si sta chiedendo come investire i suoi risparmi. Il suo amico Gigi direbbe... Te la do io la dritta, ma ha detto il salumiere, che gli ha detto lo zio, che gli ha detto la nonna, che gli ha detto un suo amico che gli aveva... In PNL, invece, dipende dai suoi obiettivi e le sue esigenze. L'investimento migliore è quello giusto per te. Progetta il tuo futuro consapevolmente con un consulente personale BNL e la competenza unica dei 5.000 specialisti in tutto il mondo del gruppo BNP Paribas. Chiama l'800-900-900 per un appuntamento in BNL. Dagli happy hour agli eco shopping a impatto zero, dai quartieri più in del pianeta a quelli più ricercati, dallo shopping sfrenato alla cultura più d'avanguardia. Questa è la New York del mensile I Viaggi del Sole, la città che non finirà mai di stupirvi. In edicola. Tempo di sport. Ma sto parlando di Reia con Sky. Io lo dico costantemente, ma questa è una squadra che ha dei mezzi, ha delle qualità per saltarne fuori. L'importante è che giochi come giocato oggi. Fabio. Beppe. Sì, mister, le sue due vittorie le ha ottenute fuori casa molto bene col Parma e oggi con il Cagliari. Sentivo prima parlare di paura. Forse quando giocate in casa c'è ancora molta pressione sulla squadra, che magari è lì dove dovete, secondo me, cercare di fare più meglio, ecco, di far meglio. No, hai perfettamente ragione, perché quando giochi in casa chiaramente sei obbligato, come capiterà mercoledì, a vincere le gare, e non è facile, chiaramente, perché il peso che hai sulle spalle è grossissimo, perché tu quando giochi nella Lazio hai questa pressione e non sempre le soluzioni ti vengono bene, non sempre fai delle buone prestazioni. Ecco, vorrei che dopo questa vittoria ci si scrollasse un po' di dosso magari il timore, che si riprenda un po' a giocare come la Lazio ha sempre fatto, in modo particolare in casa, ma diciamo quest'anno ha avuto un po' di difficoltà, ma gli anni prima era una squadra che giocava a grandissimi ritmi, anche spettacolare sotto un certo punto di vista, perché più o meno i giocatori sono questi. Bisogna ritornare a ritrovare quello spirito, quell'aggressività e soprattutto quella convinzione, cosa che è mancata in quest'ultimo periodo. Questo è di Rea, il vero problema di Rea è che non può giocare tutte le domeniche contro il Cagliari, perché sennò il Cagliari di questo periodo credo sia l'avversario più morbido che si possa trovare. C'è chi scrive sulle agenzie le dichiarazioni di Ronaldinho, me le riporto. Noi dobbiamo pensare sempre in positivo, ha detto Ronaldinho, e pensiamo ancora così. Mancano ancora tante partite, tanti punti, si può pensare allo scudetto, dice Ronaldinho. Sappiamo che giocare contro il Napoli non è mai facile, ci sono ancora 9 partite per fare del nostro meglio, dobbiamo continuare così e stare coi piedi per terra. Cos'è mancato per vincere il gol? Abbiamo creato qualche occasione, dobbiamo guardare a quello che abbiamo fatto fino ad oggi per continuare su questi livelli senza lasciare allontanare il primo posto. C'è invece chi mi scrive SMS come Alberto: certo che parlare del Milan non dico bene, quello è impossibile per lei, ma almeno in termini minimamente positivi le fa venire l'orticaria. Adesso è colpa anche per i problemi del tendine di Beckham, colpa di non so di chi, non certo mia, del tendine di Beckham, ma magari della sfiga, quella sì, dell'anagrafe certamente anche, perché insomma queste cose succedono in maniera più frequente o semplice se si ha una rosa di giocatori molto molto in là con gli anni. A questo proposito parlavo prima di Yepes, no? Oggi c'è un interessante corsivo di Alberto Costa, ma non è questo il punto. Io non voglio parlare male del Milan, semplicemente la mia posizione non è cambiata rispetto a quella dell'inizio della stagione. Leonardo sta facendo un lavoro miracoloso, perché ha letteralmente ridato vita ad una squadra che era morta per questioni anagrafiche, per questioni di chiusura di un ciclo, per motivi fisiologici, ha ridato vita al Milan, proprio come un Frankenstein, no? Come un demiurgo, ha ridato vita a questa creatura che ne era priva e sta facendo un campionato straordinario. Di qui a dire che il Milan è ancora competitivo, che alla faccia di chi può vincere lo scudetto o può essere competitivo per gli anni futuri con questa rosa, beh, mi sembra una colossale presa in giro, una colossale bugia. E Alberto Costa scrive: andando avanti di questo passo con i rossoneri miracolosamente nella... questo lo scrive lui e non io, caro Alberto. Si vede che anche lui verrà l'orticaria, Alberto Costa, che conosce l'ambiente rossonero come nessuno in Italia, glielo garantisco. Ebbene, andando avanti di questo passo con i rossoneri miracolosamente nella scia della corazzata nerazzurra di Massimo Moratti, c'è il rischio che Berlusconi si convinca per davvero che le differenze tra Milan e Inter siano minime. Anche per questo l'arrivo prossimo venturo dell'imberbe rispetto a Favalli, Iepes, non ci pare un segnale incoraggiante. Alberto Costa questo. Massimo Callegari, buonasera. Ciao, buonasera. Che Milan hai visto tu oggi? Hai visto? Ti rifaccio la domanda che ha fatto prima l'inviato di Sky, Alessandro Alciato, a Leonardo. Hai visto un Milan con la faccia da scudetto? Credi che questo Milan possa vincere lo scudetto? Beh, è un punto dall'Inter, quindi è legittimo che può vincere lo scudetto. Possiamo discutere e possiamo anche dire che non è più forte dell'Inter, però è una squadra che può giocarsi lo scudetto a modo suo, per difficoltà altrui, per alcune situazioni oggettivamente anche favorevoli. Tra Firenze e Bari il Milan ha raccolto 6 punti, ma ci sono stati molti episodi discutibili e decisivi. Sì. A Firenze per il rigore non concesso su Montolivo e a Bari per quello non concesso su Barreto con Bonera che andava espulso. Però oltre a questo, oggi sinceramente senza Nesta, Borriello e Pato praticamente, il Milan ha giocato un ottimo secondo tempo. Ronaldinho ha ingaggiato un duello che raramente mi è capitato di vedere negli ultimi anni, uomo contro uomo, sempre con Grave che lo seguiva, e lì Mazzarri è stato molto bravo, però ha giocato un'ottima partita dal mio punto di vista, e sai che non sono mancate critiche. Sì. In questo senso, per cui è una squadra che è in corsa per lo scudetto. Se siete scudetto in senso assoluto, no, però relativamente a questo campionato, per come si sviluppa il campionato, diciamo sì, che, diciamo che se l'Inter lo butta, il Milan è sotto la finestra e sta lì con i piedi ben saldi sotto quella finestra. Sentiamo insieme Mazzarri, Massimo Coscai. Un esperimento che secondo lei è riuscito? Si potrà rivedere questo tipo di assetto tattico? No? Se contro il Milan si viene a San Siro, si gioca come si gioca per il primo tempo, mi sembra che è riuscito. E oltretutto abbiamo avuto in questo senso la scelta, è stata premiata anche dal gol, ma questo lascia il tempo che trova. È una soluzione fatta per questa partita. C'era Pato, la contrapposizione mi sembrava giusta, mettere Campagnaro che come velocità e tutto il resto poteva contrapporsi bene. In più noi poi impostiamo sempre a tre, lui si è alzato, sapeva che le doveva fare e sapevamo e cercavamo di sorprenderle quando lui si è alzato. Al di là del gol l'ha fatto molto bene il primo tempo, è che è stata penso una situazione tattica che ci ha premiato insomma dal punto di vista del gioco. Fabio, Mario, grande Napoli nel primo tempo, Massimo, grandissimo. Sì, sì, Napoli nel primo tempo. Sì, sì, eccezionale per come la squadra ha giocato, proprio bloccando tutti gli avversari del Milan nelle situazioni chiave, no? Come diceva anche Dario Ricci prima, al centro con Pirlo e Seedorf e sugli esterni con Ronaldinho, poi vabbè Mancini non era così complicato da bloccare come avrebbe potuto esserlo Pato. Successivamente però nel secondo tempo la gestione dei cambi non è stata così acuta, almeno per quello che è il mio parere, nel senso che il Napoli si è un po' abbassato, si è abbassato e ha rischiato di fare la fine del Chievo di domenica scorsa, di subire un gol con un tiro praticamente dall'interno dell'area, poi con Inzaghi, Unterer, però poi Campagnaro al centro si è spostato di testa, è stato molto bravo, quindi Dennis forse avrebbe dovuto essere inserito un po' prima per aiutare la squadra a recuperare un po' di energie, perché Lavezzi ha corso tantissimo ed era meno lucido nel finale. Sì, sempre questa sorta di equivoco di fondo, Dennis Quagliarella oggi secondo me ha giocato la miglior partita almeno dell'ultimo mese, perché l'ho visto molto più vivo e brillante rispetto al solito. Poi solito cambio, già scritto nei piani partita di Mazzarri, fuori Quagliarella abbastanza arrabbiato, dentro Dennis, e da lì però il Napoli si è un po' spento, devo dirti. Sì, in realtà i cambi sono stati differiti, nel senso che è entrato Cigarini al posto di Quagliarella, sì, e poi Dennis più tardi. Certo, però... E lì, quei 10 minuti lì, il Napoli ha sofferto, no? Quando è mancato sia uno che l'altro. Mm. E quindi, perché comunque Cigarini giocava in una posizione un po' troppo avanzata per il suo passo, doveva fare anche lui un po' di dare un po' fastidio alle fonti di gioco del Milan, però era una posizione in cui non poteva esprimere le sue caratteristiche, e lì il Napoli ha subito molto. Poi dopo, insomma, si è un po' ripresa, anche se nel finale c'è stata quella punizione di Pirlo che tu hai citato, e quindi, insomma, nel finale il Milan ha giocato meglio rispetto al primo tempo, in cui ha concesso tantissimo. Uno dei dati apparentemente incredibili è che il Milan abbia subito 21 reti con la difesa che ha avuto. Nesta e Thiago Silva hanno giocato 17 gare insieme, titolari contemporaneamente su 29, eppure ha subito solo 21 gol. Anche oggi ha rischiato nel primo tempo tantissimo. Sì, sì, sono d'accordo. Massimo, stai lì un attimo, traffico, poi torniamo insieme, altre due chiacchiere, poi abbiamo anche gli ascoltatori già in linea, Maurizio Latina, Luca da Parma, 800 24 00 24, perché prima di salutare Massimo Calegari volevo un suo parere sull'Inter invece, sull'Inter ormai abbonata ai pareggi. Strade in diretta. A causa di un incidente si viaggia in coda sul raccordo nord della A4 verso Torino, tra Viale Certosa e Pero. Per un altro incidente code sulla A14 Adriatica, tra la diramazione per Ravenna e Castel San Pietro in direzione Bologna. 4 chilometri di coda per lavori sulla A4 Brescia-Padova in direzione Brescia, tra Sirmione e Brescia Est. Per un altro cantiere, 3 chilometri di coda sulla diramazione Gallarate-Gattico, tra Sesto Calende e Besnate in direzione della A8. Il traffico è intenso ovunque, in particolare ci sono rallentamenti sulle autostrade liguri intorno a Genova, sull'Autosole nella zona di Firenze e sul grande raccordo anulare di Roma, tra la Appia e la Casilina in carreggiata esterna. Strade in diretta torna tra mezz'ora. Promo 24. Chi stampa molto a colori deve puntare sul verde. Infatti, chi sceglie una stampante multifunzione Xerox a inchiostro solido non solo ottiene un'alta qualità di stampa anche su carta riciclata, ma rispetta l'ambiente, perché grazie ai colori costituiti da materiali naturali e atossici produce il 90% in meno di scarti rispetto alle normali stampanti laser. Inoltre, chi decide di rottamare una vecchia stampante entro il 30 aprile con una velocissima stampante o multifunzione Xerox Solid Ink potrà decidere se chiedere di piantare fino a 450 alberi grazie al programma ONU Pianta un miliardo di alberi, può avere un rimborso fino a 300 euro. Per condizioni e offerte xerox.it/promo. A tempo di sport. Allora Massimo Calegari, perché l'Inter si è impantanata? Beh, si è impantanata perché, a differenza di quanto ha detto l'ascoltatore precedente, quest'anno si è avuto con Mourinho il periodo difficile in questa fase della stagione. L'anno scorso l'aveva avuto subito dopo Natale, quando era crollata a Bergamo, aveva giocato malissimo con la Sampdoria, aveva rischiato di perdere in casa col Cagliari. Quest'anno si è svuotato un po' più in là, il periodo un po' di difficoltà sul piano fisico, poi ci sono state delle situazioni veramente inusuali, perché certo, la partita con la Sampdoria è stata irreale e quindi, insomma, la partita con Siena ha anche richiesto uno sforzo incredibile per recuperarla contro la squadra di Malesani, quindi da qui poi le difficoltà, poi il pensiero del Chelsea, anche la gara di Catania era in equilibrio, Muntari ha commesso due errori clamorosi, sì, e lì si è decisa, no? Ieri sera, al di là del risultato, la sensazione è che l'Inter abbia giocato una grande partita, per come ha finito anche proprio sul piano fisico. È vero che hanno giocato gli stessi, però la carica mentale era talmente positiva che potevano giocare ancora. Sì, sì, no, non c'è dubbio, ma non ha tutti i torti Moratti quando dice che questi pareggi sono uno diverso dall'altro. L'unico, sì, in cui l'Inter ha giocato davvero male, l'unico che potrebbe essere davvero preoccupante, è stato quello in casa con il Genoa, perché poi gli altri, una volta giochi in 9, una volta ogni situazione, ogni partita è stata diversa da quella differente, come dici tu, situazioni anche irreali, hai usato l'aggettivo giusto, quella partita con la Sampdoria, ma perché è così, no? Mi sembra oggettivamente. Sì, sì, sì, certo, quella è stata una partita che capita, insomma, veramente pochissime volte nella storia del nostro campionato. È vero che poi da adesso in avanti ci sono 27 punti, il Milan deve farne due più dell'Inter, perché deve arrivare davanti per gli scontri diretti. la Roma, se battesse l'Inter sabato prossimo, potrebbe anche arrivare a pari punti, perché l'andata non pareggiato, quindi la Roma è assolutamente in corsa. Bisognerà capire quando tornerà Totti, come sarà gestibile il rientro di Totti, perché anche ieri Ranieri ha detto: se Totti torna, chissà se possiamo giocare con lui, Toni e Vucinic, perché poi bisogna anche sacrificarsi quando gioca con tre punte, quindi non era sicuro che tutti potessero farlo e fossero disposti a farlo. Sì. No, ma la Roma, onestamente, a me la Roma, secondo me la Roma ha qualche carta in più rispetto al Milan, vuoi per condizioni fisiche, vuoi per condizioni e per qualità tecniche, vuoi per organico. Adesso tornerà Totti, anche perché sennò Toni e Vucini ce ne raccolgono un cucchiaino. Roma che chiaramente fa i miracoli per rimanere aggrappata all'Inter, Roma che è stata brava anche a cambiare pelle, perché fino a Natale ha costruito la sua rimonta su una difesa che ha fatto 547, vado a memoria, minuti senza prendere gol. Poi c'è stato quel 2-2 di Cagliari, stranissimo, il giorno dell'Epifania, e da lì la Roma, insomma, Ranieri si è un po' aggrappato ai suoi attaccanti. Nelle ultime 12 partite la Roma ha subito, ho fatto i conti prima, altrettanti gol, e ne ha segnati 25, che sono un gran numero, onestamente. Sì, sì, poi la partita di ieri non era facile, perché l'Udinese è cresciuta, ha degli attaccanti molto veloci, e la Roma aveva delle difficoltà notevoli, perché mancavano De Rossi e Pizarro, mancava Taddei, poi è mancato anche Motta, quindi c'erano pochissime alternative. L'Udinese ha recuperato il doppio svantaggio, quindi è stata una partita molto importante per come la Roma l'ha giocata, per come l'ha gestita. È chiaro che adesso non deve fallire a Bologna e deve arrivare con questo distacco almeno alla partita con l'Inter, e poi lì si deciderà moltissimo. Ranieri però è arrivato alla seconda giornata, la Roma aveva 4 punti meno dell'Inter, il distacco è lo stesso, quindi lui e Mourinho al momento hanno fatto gli stessi punti, non è un dato da poco. Certo, grazie Massimo, buon lavoro. Grazie a voi, buona domenica. Buon lavoro con un posticipo che farà le scintille come Juventus-Sampdoria, in un clima che sarà come minimo molto difficile per Zaccheroni e per la sua squadra. Maurizio da Latina, buonasera. 800 24 00 24, vi ricordo il numero verde, avete tutto il tempo che volete, da qui fino alle 7. Maurizio, buonasera. Buonasera, dottor Genta. Io sono un tifoso del Milan e quindi parlare bene del Milan non mi viene da spiegare. Il problema è che è impossibile per me parlare del Milan in termini positivi. Cioè, io non penso allo scudetto di quest'anno, perché è impossibile. Piuttosto, se continuiamo con questo passo, a ringiovanire la squadra con i 34 anni, al massimo potremmo vincere qualche campionato gestito dall'Inps con vecchie glorie pensionati. Cioè, il problema è la preoccupazione di un tifoso obiettivo, deve essere quella del futuro, perché noi dobbiamo prospettive, cioè non si può, ripeto, ripartire da Lopez e quindi Maurizio, ma è un'indicazione precisa. Allora io le dico, è un'indicazione precisa. Allora è assolutamente legittimo anche questo, cioè non si vogliono spendere quattrini, mi sembra che le recenti campagne acquisti lo dimostrino, quindi si va sul giocatore a parametro zero, si va sul giocatore di questo tipo che non costano nulla, anche se spesso, come nel caso di Mancini, hanno ingaggi non proprio leggerissimi. Si va con questo tipo di politica, l'importante è essere realisti. Ora, dire che il Milan non sta facendo un grande campionato è una bugia. Il Milan, con questo organico, con questo tipo di squadra e con anche tutti gli infortunati, dico terminali, ma quasi, che ha avuto, sta facendo una stagione inimmaginabile. Però non si può dire che il Milan sia una squadra, sia un top team a livello europeo, perché la differenza tra il Milan e il Manchester United, lo ricordo, è 7-2, e non è una bugia quella differenza. Non si può dire che il Milan possa sfidare l'Inter ad armi pari. Il Milan può semplicemente, al massimo, e il massimo lo sta facendo, mettersi sotto la finestra e aspettare che l'Inter butti lo scudetto, sperando che la Roma non salti più in alto, perché, ripeto, secondo me la Roma come qualità e come organico è superiore rispetto al Milan stesso. Maurizio, vuole aggiungere qualcosa? No, sì, no, io sono d'accordo che il Milan sta facendo un discreto campionato, ma è un campionato mediocre. Sì. Cioè, non ho un interesse quorum, questo è il problema. Sì. Cioè, non c'è la squadra che dà una dimostrazione di forza. Vinciamo con delle iniziative dei singoli, ma non abbiamo mai dato espresso un gioco dominante o prorompente. No, ma dominanza, ma Leonardo è stato bravo. Sì, sul livello mediocre siamo d'accordo, però insomma il Milan veramente sta facendo miracoli, questa squadra sta facendo miracoli, e Leonardo si è inventato anche un nuovo modo di vedere il calcio, no? Con i tre attaccanti stabili fissi là davanti, guidati da Ronaldinho, con i tre a centrocampo che si fanno un mazzo così, e con una difesa che si fa sbattere addosso gli avversari e che anche qui, miracolo nel miracolo, come sottolineava prima Massimo Calegari, con Nesta e Thiago Silva, che sono una coppia ad oggi straordinaria e hanno giocato insieme soltanto 17 volte, alla fine il Milan, come vede, è una delle difese più solide incredibilmente del campionato, insomma, quasi paradossale, però è così, ha molto del miracoloso la stagione del Milan, su questo non ho grossi dubbi. Simone, Modena, buonasera. Buonasera dottor Genta. Intanto complimenti, perché tutti gli obiettivi sono quelli che sparano addosso al Milan, che chi dice che il Milan invece sta facendo un bel campionato non è obiettivo. Un'altra cosa, perché le giustificazioni valgono per gli altri e non per il Milan? Cioè? L'Inter, sì, lei ha parlato di pareggi dell'Inter fatti in 9 uomini, cose assurde. Il Milan oggi ha giocato senza Pato dopo 15 minuti, sì, senza Boriello, sì. Però potrebbe essere altrettanto obiettivo. Io non so, adesso la seguo spesso, sì. Non mi sono fatto un'idea, secondo me lei è un giornalista che non tifa per nessuno, è obiettivo sicuramente, però sul Milan ha sempre un po', è un po' più pepato rispetto agli altri. L'ascolto per radio, grazie. No, Simone, no, non credo di essere più pepato rispetto agli altri, semplicemente perché mi dà fastidio, e qui sono molto onesto, molto sincero, mi dà fastidio le bugie, cioè dire che il Milan è una squadra che vale, ma non voglio poi continuare a ripetere che vale l'Inter o che vale il Manchester United o che vale il Barcellona, semplicemente non è vero. La realtà è che il club ha deciso legittimamente, perché i problemi sono quelli che conosciamo e sono importanti, ha deciso di spendere meno e quindi di fare una squadra un po' meno competitiva, di vendere il giocatore più forte che è Kakà, e questa squadra non è in grado di competere come nel passato per la Coppa dei Campioni o per lo Scudetto in maniera legittima. Se poi accadono i miracoli che nel calcio succedono, vabbè, questo è un altro discorso, un'altra storia. Chiaro, lei dice oggi senza Pato, senza Nesta, con Nesta e Thiago Silva che non giocano mai insieme, è miracoloso quello che sta facendo Leonardo. Poi gli dicono anche che la squadra forse non gioca tanto bene. Galliani, Coscai. Continuiamo a essere a un punto dalla vetta, quindi avanti. Lei perché resta ottimista dopo questa partita? Ovviamente con una partita in meno, i punti restano gli stessi, uno di distacco dall'Inter. Non sono né ottimista né pessimista, continuo a dire che siamo a un punto della vetta, lo eravamo prima di questa partita e lo siamo dopo questa partita. Ci sono 9 partite, vedremo che cosa succederà, quindi non è né ottimismo né pessimismo, è solo un fatto che credo che in agosto nessun commentatore sportivo poteva pensare che a 9 giornate dalla fine il Milan fosse a un punto della vetta. Ha ragione. Si può dire che Inzaghi non tradisce mai, soprattutto nei momenti che contano come oggi? Sì, lui sboccia come la primavera. L'anno scorso aveva anticipato la primavera di una decina di giorni con l'Atalanta, adesso invece ha beccato proprio il giorno della primavera. Lui è così, io guardo il cielo quando la temperatura si alza, so che arrivano i gol di Inzaghi ormai da parecchio tempo. Oggi era in effetti, se poi gioca è un po' più facile che faccia gol, se sta perché è un po' dura. Luca Parma, buonasera. Buonasera dottor Genta. Niente, io volevo fare alcune obiezioni relativamente al discorso Milan. Sono milanista anch'io, sì. Riconosco sicuramente uno strapotere da parte dell'Inter, determinato da effettivamente una grandissima rosa che ha comportato chiaramente dei grandissimi esborsi, tanto quanto penso che sia la luce del sole. Il Manchester United è una grandissima squadra, sicuro. Però sappiamo la situazione economica, sicuro, del Manchester United. Sicuro. Io ritengo, da milanista obiettivo, sì, che se domani l'UEFA intendesse perseguire quelle che sono le sue direttive, cioè un determinato equilibrio tra l'economia, diciamo, e la costruzione dei team, ritengo che Milan potrà essere tra quelli che possono giocarsi le carte in una maniera più equilibrata. Sostanzialmente io ritengo che Milan abbia intrapreso una politica negli ultimi anni mirata più all'acquisto di giocatori di valore e giovani, perché non dimentichiamoci che Thiago Silva non mi sembra un vecchio, Pato non mi sembra un vecchio, Boriello non mi sembra un anziano. Boriello non se l'è trovato in casa dopo vario peregrinare, eh? In effetti l'acquisto di Thiago Silva dell'anno scorso lo sappiamo, ed è, come dice lei, è in linea con questa filosofia. Peccato che altri acquisti lo siano un po' di meno, no? è inutile stare a pensare a Ronaldinho. E poi voglio dire, se Berlusconi ha cambiato strategia come l'ha cambiata, passando ad un calcio più virtuoso, che non è quello che ha praticato per anni, staccando assegni per coprire i buchi, non c'è di male, anzi ha fatto benissimo. L'importante però è non dire che questo Milan attualmente è competitivo tra i top team europei, questo no. Poi se, e ce lo auguriamo tutti, l'UEFA interverrà in maniera seria finalmente per evitare quei buchi che vediamo in giro per l'Europa, ben venga. Questo però sarà un discorso a venire. La ringrazio Luca, ci fermiamo un attimo, GR, poi di nuovo qui, 800 24 00 24, è il numero verde. Tanto ci sono un sacco di notizie che si rincorrono tra Italia ed Inghilterra, tutte ampiamente da verificare, come il fatto che lo sceicco del Manchester City stia facendo una corte serrata a Mourinho, così come il fatto che Roberto Bettega sia andato, francamente non lo so, in Inghilterra per parlare con Roberto Mancini. Comunque queste notizie che circolano, insomma, lo saprete anche voi e meglio di me. Io stavo leggendo intanto i messaggi in attesa di riprendere le chiacchierate con gli ascoltatori. 800 24 00 24 è il numero verde. C'è chi mi dà dell'astioso nei confronti del Milan, ma non mi pare, ho un mio pensiero che è questo, è quello che ho espresso anche troppe volte, rischiamo di continuare a fare il giro tondo qui. C'è chi scrive: da milanista lei ha ragione, il Milan è come un pugile della tecnica sopraffina, senza fiato, quando vince quando riesce a sferrare il colpo vincente. Oppure questo Milan è come quello di Zaccheroni, più tecnico e più fermo atleticamente, se vincesse lo scudetto sarebbe fortunato, scrivono gli ascoltatori. Adesso io vorrei, prima di Vincenzo da Reggio Calabria e Roberto da Roma, che sono già in linea, dare un attimo a Cagliari da Ignazio Caddeo. Ciao Ignazio. Ciao, buonasera a te, buonasera a tutti. Per fare Ignazio Caddeo una domanda difficilissima, e cioè: questo Cagliari l'Europa non la vuole, mi sembra chiaro? Mi sembra evidente che il Cagliari abbia mollato anche improvvisamente i pappafichi. Sono assolutamente d'accordo con te. Oggi a me è parsa una squadra che è già in vacanza, ma con grande anticipo, più anche delle scorse partite. Io ho visto una squadra un po' più reattiva con il Catania alcune settimane fa, una squadra che comunque a Udine ha perso giocando bene a fine febbraio nel recupero del match che non ho giocato a dicembre. Stasera la squadra è sembrata veramente assente, difesa inguardabile, pronti via, la Lazio ha segnato, Lopez è stato assolutamente un rientro disastroso, e mi dispiace dirlo perché lui ha grande esperienza, ma oggi è stato assolutamente il peggiore in campo. Io credo, guarda, che se non ci fosse stato Marchetti il passivo sarebbe stato ancora più pesante. Inconsciamente forse la squadra ha staccato la spina, cioè quando si è trovata a 38 punti ha capito di essere ormai salva, visto che il divario con il discorso salvezza era ormai chiuso, e a quel punto lì ha cercato sì di arrivare all'Europa, ma probabilmente non ha limiti, chiaramente questo è più che capibile. Cellino ha provato a spronare in settimana, purtroppo sì. A Roma ci sono rimasti male perché hanno capito che fosse un'offesa, non era un'offesa contro la Lazio, era proprio Cellino che provava a spronare i suoi dicendo: se non vincete anche pareggiando restituirete dal vostro stipendio, dal vostro compenso, i soldi del biglietto ai tifosi. Cioè, non è che Cellino gli ha detto: guarda, se andate in Europa lo stipendio non ve lo do più del tutto? Guarda, Cellino è arrabbiato, ti devo dire la verità, Cellino è molto arrabbiato per la vicenda stadio che qui a Cagliari è ormai da molto tempo che si sta trascinando, con liti con il sindaco della città, con situazioni abbastanza difficili e anche pesanti. Però Cellino nelle ultime settimane ha rilasciato alcune dichiarazioni, alcuni quotidiani locali, in cui ha detto: io credo fortemente nel discorso Europa. Però anche lui ha anche ravvisato, probabilmente la squadra è stanca, ecco che alla fine il cerchio credo che si stia chiudendo. Peccato, perché è vero che la squadra è salva e l'obiettivo primario è stato questo, però si stanno lasciando troppi punti pesanti. In quella doppia trasferta di circa un mese fa tra Udine e Parma, il Cagliari poteva fare il salto di qualità. Addirittura nel primo match di Udine, il primo dei due, se avesse vinto sarebbe stato quarto. Invece adesso sta scivolando addirittura dall'altra parte della classifica. Sì, Cellino, che non ha nel naso, sa bene cosa comporterebbe comunque una gita in Europa, no? Quindi una squadra che dovrebbe essere per forza più profondo, una squadra che, come l'esperienza recente dimostra, di chi ha fatto non solo la Champions League ma anche la stessa Europa League, il cammino del Genoa, che è ben più attrezzato dal punto di vista dell'organico rispetto al Cagliari, insegna, insomma, è una fatica che si paga in campionato e comporta dei rischi molto elevati. Grazie Ignazio Caddeo da Cagliari, ci siamo fatti un'idea un po' più precisa, no, mi pare. Direi traffico, poi Roberto da Parma e Alessandro da Modena, già in linea. Strade in diretta. Traffico intenso verso le grandi città e ci sono purtroppo gli incidenti ai cantieri a condizionare i rientri della domenica. Sulla 14 Adriatica, code a tratti tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna per un incidente da poco risolto. Sul tratto milanese della 4, code tra Viale Certosa e Pero in direzione Torino, anche qui si avvertono le conseguenze di un incidente. E c'è un incidente anche sulla 15 della Cisa, traffico rallentato tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Ci spostiamo adesso sulla 4 Brescia-Padova, circa 6 chilometri di coda per un cantiere tra Sirmione e Brescia Est in direzione Brescia, per un altro cantiere ci sono code di 4 chilometri sulla diramazione Gallarate-Gattico tra gli svincoli di Sesto Calenda e Besnate in direzione della 8 Milano-Varese, infine code di circa un chilometro sulla diramazione per Pisa, sempre per lavori tra Pisa Aeroporto e Navacchio in direzione della strada di Grande Comunicazione. È tutto, noi ritorniamo tra circa mezz'ora. Promo 24. Chi viaggia per lavoro deve pensare anche a sé. Per questo è giusto pretendere un'auto sicura e affidabile. Passat EcoFuel e Blue Motion Technology garantiscono innovazione e comfort nel massimo rispetto dell'ambiente, con ridotti costi d'esercizio e minimi consumi. Passat 1600 TDI Blue Motion Technology è il nuovo diesel di terza generazione che con i suoi 105 cavalli permette di percorrere più di 1000 km con un pieno. E Passat 1400 TSI EcoFuel è l'unica con motore turbo a iniezione diretta bivalente benzina-metano da 150 cavalli. Grazie ai Blue for You Days fino a 3.000 euro di vantaggi e finanziamento a tasso agevolato in 6 anni. Offerta valida fino al 31 marzo. Informazioni e dettagli su www.volkswagen.it. A tempo di sport. Questa battaglia durissima in testa alla Premier League, in questo caso tra squadre che tutte hanno, secondo me, le potenzialità per vincere il titolo, perché il Manchester United ha battuto 2-1 il Liverpool oggi, il City di Roberto Mancini ha fatto quello che sarebbe piaciuto alla Juventus, cioè vincere a Craven Cottage, quantomeno pareggiare sarebbe bastato, o perdere con un punteggio un po' più civile per passare il turno di Europa League. Morale, il City ha vinto sul campo del Fulham 2-1 e il Chelsea sta vincendo al 58esimo della partita, quindi ancora parecchia gara davanti, però sta vincendo 1-0 sul campo del Blackburn, gol del solito Didier Drogba. Stando così le cose, il Manchester United è già in testa 69 punti, quindi Arsenal 67, Arsenal che potrebbe essere raggiunto proprio dal Chelsea se porterà a termine con successo questa partita. Roberto da Roma, buonasera. Roberto? Sì, salve. Salve? Salve, buonasera. Senta, innanzitutto i complimenti per la trasmissione. Grazie. Senta, io chiamavo per volere rimarcare il grande campionato che la Roma sta facendo. Sì. E mi domandavo, ma a Totti, fermo restando il fatto che è un grande campione, però che quest'anno ha fatto pochissime partite. Sì. Secondo lei come lo vede in una collocazione in questa squadra? In questa squadra? Sì, sì. Non me lo dica lei, quest'anno sta facendo il capitano. Senta, ma secondo lei, che immagino romanista, ha più possibilità l'Inter, il Milan, mi scusi, o la Roma di acchiappare lo scudetto se dovesse volare giù dalla finestra? Guardi, io condivido pienamente l'analisi che ha fatto sul Milan. Il Milan per me non è una squadra da valori assoluti. La Roma, a differenza qualitativamente, è superiore, quindi penso che nel caso in cui l'Inter dovesse buttare questo scudetto, penso che la Roma abbia qualcosa in più rispetto al Milan. È anche il mio pensiero. Quanto a Totti, in questa stagione sta facendo il capitano di Coppa Davis, no? Cioè il capitano non giocatore, perché è evidente che non è riuscito a dare, per i 1200 problemi fisici che ha addosso, un apporto sostanziale significativo alla Roma. può essere che insomma per Totti possa valere il discorso che ha fatto prima Gagliani per Pippo Inzaghi, cioè fiorisce a primavera, magari entra e riesce con un clima un po' più mite a dare, a sentire meno dolore, a dare una mano là davanti, dove peraltro, ripeto, stanno facendo strabene, no? I vari Vucinic ieri tripletta, ma anche Toni che dopo l'infortunio è rientrato, si è ripreso e ha ricominciato a segnare. Ripeto, la Roma nelle ultime 12 partite, dopo aver costruito la rimonta sulla solidità difensiva con quasi 500 minuti di imbattibilità fino a Natale, poi da dopo Natale ha cominciato a prendere gol ma anche a segnarne molti di più. Nelle ultime 12 partite ha subito 12 gol, compresi 3 di Livorno, i 2 di Napoli, eccetera, ma ne ha segnati 25, che sono un discreto numero. Credo che ho l'impressione che il momento di flessione, di crisi, il momento più complicato la Roma l'abbia passato, lo stia superando. Almeno la sensazione che ho vedendo la Roma è questa. Alessandro Modena, buonasera. Sì, buonasera Genta. Senta, io ho sentito, a parte molti emiliani che hanno chiamato stasera, uno da Modena, Simone, mi sembra che sì. Parlava del Milan, mi tocca parlare anche a me. Io dico volentieri. Che d'altronde se i tifosi milanisti, io vado spesso allo stadio, si permettono di fischiare Seedorf, uno come Seedorf, io dal tifoso milanista che sono anch'io mi aspetto di tutto. Comunque dire che non è un miracolo che il Milan sia lì mi sembra veramente, cioè voglio dire, il miracolo è ovvio che sia, visto anche come gioca, visto come è impostata la squadra. Io sento spesso dire che perlomeno Leonardo ha dato un'impostazione di squadra, ma io non ce l'ho con Leonardo, essendo tifoso ho tifato anche per Leonardo, quindi ho 30 anni, quindi ho visto benissimo lo scudetto che ha vinto anche lui, sì. Però sì, voglio dire, cioè se Ronaldinho gioca nel Milan e va bene, ci può stare, un motivo ci sarà, io, secondo me comunque è un miracolo. Abbiamo perso l'occasione col Manchester, perché il Manchester visto l'andata, un'occasione fittizia, Alessandro, in tutto un'occasione fittizia, perché onestamente sì, un'occasione fittizia, però le assicuro, il Manchester visto all'andata io non l'avevo mai visto, ma in tutto in 15 anni in cui mi rendo conto di vedere il calcio, ecco. Quindi sì, secondo me è stata un'occasione, poi insomma il resto, il campionato adesso vediamo, siamo lì a un punto. Però volevo solo essere d'accordo con lei per il fatto che il Milan, insomma, per me, anche per me è un miracolo, e non è vero che c'è tutto sommato una buona squadra, alcuni buoni giocatori, alcuni secondo me anziani da non togliere assolutamente, ma l'impostazione è poi quella. Sì, insomma siamo d'accordo, quindi le discussioni in questo caso non sussiste in materia del contendere, ecco, tra me e lei. Marco Ansaldo, inviato della Stampa, ciao Marco. Ciao, ciao. Miracoloso Milan, siamo tutti lì, siamo tutti su questo concetto, no? Ma miracoloso sicuramente, perché io dopo averlo visto perdere il derby di ritorno con un Inter in 10 in quella maniera, pensavo veramente che ormai non ci fosse nessunissima possibilità per il Milan di riagganciarsi all'Inter. L'Inter ha fatto molto per farsi riagganciare, perché 8 punti in 7 partite sono una media quasi da retrocessione. E il Milan ne ha approfittato. Resta il fatto che per me il Milan rimane una squadra estremamente incompiuta, e se il Milan vince questo campionato, come può farlo, per carità, grande merito, ma significa che è stato un piccolo campionato. Sì, che sia stato un piccolo campionato non c'è dubbio, anche perché se una capolista fa 8 punti in 7 partite in Inghilterra se la mangiano, no? Sicuramente, sicuramente. Secondo te, onestamente, ha più chance con lo scudetto che vola dalla finestra, ha più chance di afferrarlo la Roma o il Milan, visto come sono messe adesso? Dando un'occhiata al calendario direi addirittura la Roma, però la sensazione è che la Roma poi alla fine sia una squadra che come spesso le è successo poi manchi poi la capacità di chiudere il colpo, no? Come si dice. E quindi alla fine io continuo a pensare che sarà l'Inter a vincere. Ed è anche il mio pensiero, così come il mio pensiero è il fatto che la Roma abbia qualche carta in più rispetto al Milan, al di là del calendario, proprio dal punto di vista della qualità e dell'organico, insomma. Ho un assetto definito meglio e anche una qualità dell'organico forse... Insomma, in teoria la qualità dell'organico, se guardiamo i nomi, il Milan non è male. Il problema è che questo organico poi, ad esempio da un punto di vista anagrafico, ha qualche problemino, perché il Ronaldinho di oggi non è quello di 4 o 5 anni fa. Certamente. E così via tutti gli altri. Io devo dire onestamente, ho visto gli anni di Ranieri alla Juventus, e temo che, come diceva il vecchio Siviglia di Marchesi, sia come quei medici che non ti fanno morire ma non ti fanno star bene mai. E quindi ha fatto già un grandissimo lavoro con la Roma, ma ho sempre l'impressione che sia uno di quegli allenatori che arrivano sempre con un soldo in meno per fare la lira, come si diceva una volta. Sì, sì, sì. Senti Marco, a proposito di Juventus, a proposito di Juventus, io trovo preoccupante il fatto che, insomma, prima di Londra ci fosse quasi unità di intenti e di accordi nella conferma di Zaccheroni. Ma non perché Zaccheroni sia un cattivo allenatore, questo non è vero, comunque alla fine non è questo il punto, quanto perché mi sembra davvero che si navighi a vista, di partita in partita, e in una situazione che oggi immagino sarà con le scintille. No. C'è stata una scarica, non capisco. Cioè, prima di Londra tu eri convinto ci fosse unità di intenti? Mi sembrava ci fosse una discreta unità di intenti nella conferma di Zaccheroni. No, credo che non ci sia mai stata questa unità di intenti, onestamente. Credo che non cosa ha in testa la Juventus allora? La Juventus ha in testa una rifondazione, l'ennesima nel giro di 4 anni. Una rifondazione con la possibilità che vadano via gran parte dei giocatori e quindi ripartire praticamente, non dico da zero ma quasi, cosa che ovviamente deve essere affidata a un tecnico che abbia delle caratteristiche diverse da quelle che ha Zaccheroni, che è un ottimo gestore, oltre ad essere una gran brava persona, è sicuramente un tecnico preparato, è un gestore di squadra. Qui se devi cambiare tutto ci va un tecnico, tanto per fare un nome che poi magari non arriverà mai perché costa molto, ma Benitez è un altro tipo di allenatore, cioè è quello che ti va a trovare 5 giovani che poi nell'arco di 2 anni diventano dei fenomeni e su quelli imposta una squadra. Ecco, quel tipo di allenatore lì penso che la Juventus stia cercando. La Juventus sicuramente ha contattato Prandelli, sicuramente ha contattato Benitez, ha fatto un sondaggio, devo dire anche abbastanza curioso, con Capello che ovviamente ha risposto picche, e sta anche molto dietro a Laurent Blanc, che così fanno la coppia Blanc and Blanc e diventa un perfetto spumante. Sì. Comunque, al di là delle battute, Blanc, per quello che sta facendo al Bordeaux, si sta dimostrando un fior di allenatore, e quel tipo di allenatore lì, cioè quello che prende della gente sconosciuta, magari giovane, e la porta a giocare in un certo modo. Il mio unico dubbio è che questo lavoro, che a mio avviso, come detto ripetutamente, andava fatto l'anno in cui la Juventus salì dalla B alla A, dicendo ai tifosi: signori, noi abbiamo bisogno di 2 anni per ricostruire tutto, dateci il tempo e poi facciamo una squadra che per 10 anni può tenere botta all'Inter e alle altre. Sì. Fatto adesso, dopo 4 anni di queste sofferenze, soprattutto quelle indicibili di quest'anno, non so quanto la gente possa ancora avere la pazienza di aspettarne altri 2 o 3. Sì, sono d'accordo Marco. Intanto vediamo come va a finire questa stagione e ancor più a stretto giro di posta la partita di questa sera, che immagino si giocherà in un clima difficilissimo. Senti, prima di salutarti, che idea ti sei fatto sui sorteggi di Champions League? Io vedo in giro un po' troppi manifesti celebrativi della notte di Londra per l'Inter. Beh, è stata una gran notte, devo dire. Cioè, una delle poche notti, certo, del calcio italiano, anche se ho ragione Lippi, quello dell'Inter non è calcio italiano. Il calcio italiano a Londra era quello del Chelsea, perché almeno c'era un italiano, Ancelotti, sulla panchina. Ma io ieri ho visto l'Inter a Palermo, premesso che il Palermo è una squadra che mi piace in una maniera incredibile, e mi sembra altrettanto incredibile che sia ancora lì a giocarsela per il quarto posto con la Juventus e con altre, dal momento che gioca enormemente meglio della Juventus e di altre. E quindi ci può stare un pareggio in quel modo. Non ho visto ho visto un Inter stanca, ma non ho visto un Inter finita. Credo che i festeggiamenti, o comunque gli elogi di Londra non abbiano intaccato la scorza dell'Inter nella partita di ieri. È andata così perché col Palermo puoi pareggiare o anche perdere. Non c'è dubbio. Ha uno degli allenatori più bravi che ci siano in circolazione, a mio parere. Sì, e difatti è per questo che le grandi squadre non lo prendono. Certo, ed è per quello che poi va a San Siro con il Milan e dà lezione di calcio vincendo. Esatto, no? Tanto per dirne una. Esatto. Comunque, in prospettiva Zesca Mosca, in chiave Inter, saresti abbastanza tranquillo e fiducioso? Nessuna buccia di banana sul cammino? No, non ho detto questo. Ah. Le bucce di banana sono sempre all'ordine del giorno, anche perché sai, un conto preparare una partita contro il Chelsea, esatto. Peraltro il Chelsea visto l'altra sera mi ha molto molto molto deluso, ed era evidentemente una squadra che già con qualche difficoltà se ne è prese 4 dal Manchester City 2 settimane prima. Sì. Il CSKA probabilmente, o Zesca come dici giustamente tu, è una squadra che magari adesso sta anche meglio fisicamente, non ha grandi giocatori, ma prepararla caratterialmente è difficile, perché lì è l'Inter che deve fare il gioco, si pretende che l'Inter faccia il gioco contro i russi, mentre invece contro il Chelsea è stata formidabile nel frenare il gioco del Chelsea e nel ripartire, cioè sostanzialmente Mourinho ha fatto quello che faceva più o meno Rocco Herrera molti anni fa. Sì. E adesso bisogna vedere com'è la situazione. Certo, sul piano della qualità degli individui, secondo me non c'è partita tra l'Inter e i russi. Naturale, però è anche quella partita. Mentre col Chelsea vai a casa, dici, o era al Chelsea, con il CSKA anche il peso psicologico della partita è un po' differente. Proprietario di Chelsea, adesso Carletto Ancelotti ha incassato un gol 1-1 con il Blackburn, assegna Diouf, e il momento per il Chelsea è bruttino. Grazie Marco. Grazie a voi, ciao. Grazie a Marco Ansaldi, inviato della Stampa. Adesso, subito dopo questa breve pausa, torno a parlare con gli ascoltatori. Tommaso da Latina, Luigi da Modena, già in linea, altri arriveranno. 800 24 00 24, numero verde. Con grattacieli sempre più alti, si corre il rischio di un rallentamento della rotazione della Terra a causa dell'attrito con l'aria? Sono Federico Pedrocchi e con la redazione di Möbius vi porto tutta la scienza, quella strana o affascinante, quella divertente, la scienza difficile che cerchiamo di spiegarvi. Vi aspetto qui a Radio 24, ogni sabato dalle 20 alle 21, ogni domenica dalle 23 alle 24. Chi sa offrire alla mia azienda la soluzione per comunicare sempre e ovunque? Fastweb soluzione impresa. Fax, email, telefonate, meeting, videocomunicazione direttamente sul tuo PC o sul tuo telefono. Con la nuova offerta Fastweb che integra la comunicazione fissa e mobile della tua azienda nel modo più semplice ed evoluto. Fastwebsoluzioneimpresa.it. Vedo viaggi e tanto risparmio. L'ha letto nella mano? No, nell'offerta Trenitalia. Se acquisti il biglietto almeno 30 giorni prima, viaggi tra Roma e Milano con Freccia Rossa a partire da 39 euro. Informati su ferroviedellostato.it. Promozione a posti limitati, soggetta a restrizioni per viaggi entro il 12 giugno. Dai, ultimo scatto. Io cedo. Dove trovi tutta questa energia? Prova la ricarica gialla. Ricarica gialla? Certo, l'omeopatia del dottor Reckeweg si riconosce dalla chiave gialla. Omeopatia? Bella idea. Sì, omeopatia del dottor Reckeweg. Chiedila in farmacia. Come va lassù? Tutto bene? Quasi finito! Ma quanto carburante ci sta dentro sta tanica? Ehi, ci devo fare oltre 20.000 chilometri! E come fa con l'autostrada? È più grande del casello! Affrettati! Fino al 31 marzo, Forester Diesel con carta prepagata PostePay Subaru per rifornirsi e viaggiare gratis per oltre 20.000 km. Oppure B-Fuel al prezzo del benzina con un risparmio di 2.300 euro. Anche sabato negli showroom Subaru che aderiscono. A Taormina c'è un futuro fertile. Confagricoltura, al suo quarto forum, dal 25 al 27 marzo, disegna l'agricoltura del terzo millennio. In primo piano, il progetto politico-economico per la riorganizzazione del settore agricolo nel quadro del rilancio del paese. Confagricoltura, le sfide e i percorsi nuovi del fare impresa. Ma dove va con quel veicolo? Signor Vigile, vado a fare la spesa. Però, che design e che capienza. Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica. Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno. Campagna Che Passione, tutte le soluzioni e consigli pratici per orto, giardino, frutteto, vigneto, uliveto, conservazione dei frutti e cura della casa di campagna. Campagna Che Passione, in più con i primi due fascicoli una meravigliosa stampa artistica. In edicola da Hobby & Work. A tempo di sport. Sono d'accordo su quanto scrivono gli ascoltatori, come ad esempio questo, ma vogliamo sottolineare che in un mondo davvero sportivo la Roma avrebbe dovuto vendere tutti i giocatori per potersi iscrivere al campionato. Allora, altro che secondo posto, ce ne sono diversi di messaggi di questo tenore. Sì, però se parliamo di bilanci è un conto e questi discorsi vanno fatti. Se parliamo di risultati sul campo, quindi se parliamo esclusivamente di pallone, i discorsi mi sembrano debbano essere per forza di cose diversi. Se stiamo sul versante strettamente sportivo, voi mi direte bilancio, lo sport, non hai soldi, li metti, riesci a stare al vertice, il Manchester United è pieno di buchi, eccetera, eccetera, pieno di debiti e così via. È tutto vero, però proviamo a confinare i discorsi all'interno di quel rettangolo verde su cui il Chelsea sta facendo 1-1 con il Blackburn, me lo ricordo. Io leggevo distrattamente le classifiche dei campionati europei per rafforzando la mia convinzione, e cioè in Europa, al di là dei bilanci, c'è un'oligarchia di squadre, 5-6 squadre che sono costruite e spendono quantità incredibili di denaro per vincere la Champions League, e sono corazzate nei piccoli stagni dei campionati nazionali. Ad esempio in Spagna, attualmente in attesa del Barcellona, Real Madrid 68 punti, Barcellona 65, la terza che è il Valencia ha 47 punti. In Inghilterra, lo dicevo prima, Arsenal 66, anzi Manchester United che ha già vinto 69, Arsenal 67, Chelsea vediamo, attualmente 65 ma classifica in divenire. La quarta che è il Tottenham ne ha 55, poi c'è Liverpool 51, Manchester City e Aston Villa 50, altro pianeta, altro livello. Mi sembra una distanza e una differenza tra chi vuole essere, chi ha la Champions League in testa nel mirino, e tutte le altre. Differenza riscontrabile non solo nel calcio e non solo in Italia. Dunque, Tommaso da Latina, buonasera. Buonasera a tutti. Io sono un romanista e la ringrazio per la fiducia che ci ha espresso verso la Roma, sì, e quella cattiveria che è stata appena scritta nell'SMS dimostra che cominciano a temerla la Roma. È semplicemente il mio pensiero e sto parlando solo di calcio, perché poi quanto ai bilanci e la situazione della Roma la conosciamo, e anche, esatto, e anche questo balletto sulla vendita della Roma lo trovo piuttosto incomprensibile, no? Mi sembra che la Roma così non possa andare avanti, dal punto di vista societario. Però in maniera molto italiana una soluzione all'orizzonte non si vede e si va avanti così, no? Con debiti scaduti, con le banche che richiedono i pagamenti, con i pagamenti che non vengono effettuati, con i giocatori che rimangono lì, e si va avanti fino a dove non si sa. Ma noi da tifosi ci godiamo lo spettacolo, per un attimo queste cose cerchiamo di metterle da parte. Però volevo dire che c'è, cioè, vero che la Roma ha quegli enormi limiti di tenuta, di personalità, se vogliamo, che ha ampiamente dimostrato anche negli ultimi anni. Però questo io direi prima del tridente che ha espresso ieri sera. Io mi sono meravigliato come non è mai stato nominato un giocatore come Menez in questa trasmissione, che ieri è stato semplicemente astronomico, una cosa allucinante. È entrato nei 3 gol, di cui uno è praticamente tutto suo, l'altro sul rigore da lui procurato, sì, e l'altro ancora su assist a Vucinic. Tommaso, Menez è come una lampadina di Natale. Bellissima, ma che Menez è come una lampadina di Natale, bellissima, molto colorata, ma che si accende e si spegne in continuazione. Ecco, quando metterà il filo, abbia dimostrato che forse è finito questo momento. Giovanissimo, no, e non farà la fine di Cassano, no, attento, fatto nella Roma. Lo dimostrerà nel momento in cui riuscirà a mettere in fila 5, 6, 7 partite, un girone, un campionato, non dico a quel livello, ma a un livello costante. Fino a quando si accende, dà fiducia e affronta il problema della successione di Totti. Credo che lo debba affrontare prima di quanto, sì, voleva, per comodità forse fare. Mi permetto di pensare questo. Sì, no, ma fa benissimo. Ma che adoro Totti, devo dirla questa cosa. Ma fa benissimo. Deve giocare sul tridente questa squadra, perché è qualcosa di consistente quello che si è visto ieri. Toni, Vucinic e Menez sono qualcosa. Adesso bisogna lavorarli con De Rossi e Pizarro, se funziona lo stesso, ma si possono anche permettere di posarsi uno alla volta per lunghi tratti, sì, della partita. Ma la Roma ha tante frecce, il tridente è uno di questi. Menez è senz'altro un giocatore di enorme talento, ma questo lo sanno tutti, no? In Italia, in Francia, in Russia, da tutte le parti, però è anche un giocatore, ripeto, che quel talento lo deve esprimere con maggiore continuità sul campo. Poi la successione di Totti, sacrosanto, insomma. Totti sta facendo in questa stagione il capitano non giocatore della Roma. Sappiamo che gli è stato prolungato il contratto fino ad una durata onestamente difficilmente immaginabile. Io credo che possa comunque tornare con la primavera, con climi un po' meno umidi, e dare qualcosa alla Roma. Ed è per questo che dico che la Roma, attenti, perché la Roma può, forse più del Milan, dar fastidio all'Inter fino in fondo. Luigi Modena, buonasera. Sì, salve, buonasera. Io volevo porle un quesito. Secondo lei, quanto merito ha Leonardo in questa rimonta allo scudetto? E che cosa deve fare il Milan, secondo lei, per diventare competitiva a livello internazionale, perché così lei non può smentirmi, io sono milanista, sì, perfetto, non mi può smentire, ma quando li vedi giocare a livello internazionale, sì, è caduto anche la storia della musica della Champions League, perché io quando l'ho visti giocare contro il Manchester mi è venuto un patema, cioè non si può guardare quella squadra, ma è dispiace, perché venuto io sono milanista da... Sì. No, ma io capisco, eh. Allora, la risposta è molto facile. Quanto c'è di merito di Leonardo? Tanto, perché come ho detto prima, Leonardo è stato bravissimo, pur con la sua inesperienza, pur con i suoi limiti attuali di allenatore, è stato bravissimo nel ridare vita a una creatura che non ne aveva più, no, di vita, una creatura molto antica, molto raffinata se vogliamo, ma una creatura che di vita non ne aveva più. Quindi solo per questo merito moltissimo, è riuscito anche ad inventarsi una squadra che non stava né in cielo né in terra, in cui il centrocampo praticamente non esiste, in cui hai tre attaccanti che di tanto in tanto fanno male, in cui hai una difesa solida oltre ogni ragionevole immaginazione, quindi in questo è stato bravissimo. È chiaro che a livello internazionale questo vale, il giochino può funzionare nel campionato italiano, a livello internazionale, come diceva lei, si paga. Cosa serve? Io credo i quattrini e dei programmi precisi per ricostruire una squadra che non può certo ripartire da Yepes anni 34, lei converrà. Filippo Maria Ricci dalla Spagna, buonasera Filippo. Buonasera. Oggi sulla Gazzetta scrivi: il Real coglie il tris dopo la paura, ieri con lo Sporting Lione in vantaggio al Bernabeu, tutti sul chi vive, ma poi insomma credo che il Real correrà fino in fondo per questa Liga, sebbene gliene importi pochino. Bueno, sì, sicuramente, però ieri gli ha dato anche una mano l'arbitro, perché il primo gol Van der Vaart si aggiusta la palla con le mani, l'arbitro non lo vede, e quindi dopo due minuti che hanno passati in svantaggio hanno pareggiato. Poi è chiaro, vincono queste partite per inerzia, al Real Madrid, in 47 gol segnati al Bernabeu in 14 partite, dicono che insomma al Bernabeu le hanno sempre vinte. Adesso è interessante perché le prossime due squadre che vengono al Bernabeu sono Atletico Madrid e Barcellona. Quindi si vedrà. Sì, penso che arriverà sarà la prova del 9. No? Intanto prima leggevo le classifiche dei campionati, insomma anche in Spagna, Real Madrid 68, Barcellona 65, poi c'è il Valencia che ne ha 47. Il mio pensiero è che sia un'oligarchia di quelli che vogliono vivere per la Champions League e che sia inavvicinabile da parte di tutte le altre. Mi domando in questa prospettiva quale senso possono continuare ad avere i campionati nazionali. Sì, l'unica cosa è che però, voglio dire, c'è chi vive per la Champions League e spende 254 milioni e poi sono 6 anni che si esce agli ottavi. Sì. Per cui, voglio dire, non è che si vive per la Champions League, si vive per gli ottavi della Champions League. Cioè, se vanno avanti il Lione, il Bordeaux e il CSKA a Mosca, qui c'è qualcosa che non torna in tutto questo. Per cui ti dico, sì, i campionati nazionali magari non hanno tanto senso, a parte che quello spagnolo quest'anno è così, e diciamo ho visto una statistica, fino a 4 anni fa tra la seconda e la terza c'era un punto, e poi il divario è progressivamente aumentato e quest'anno non è nemmeno un divario, è praticamente un altro campionato, sì. No? Però io non so, sì, il campionato nazionale a me continua ad affascinare. Non penso che sia si possa prescindere, però in compenso abbiamo questa grande Champions, che non è più una Champions, ma no, è una Champions del secondo, terzo e quarto, e già quello è più o meno un campionato europeo, che è molto divertente perché appunto dice che se tu puoi anche spendere quello che vuoi, ma poi non è detto che tu vada avanti. Assolutamente, il segreto è quello, il trucco è quello, però appunto io credo che la crisi economica comunque abbia scavato da quel piccolo fossato questo enorme solco cui tu facevi riferimento. Stando così le cose, comunque insomma c'è sempre un'oligarchia al potere nei campionati nazionali che li rende un po' meno appassionanti ed interessanti. Senti, invece l'altra, dimmi. No, perché dico, a me piacerebbe ovviamente un mondo ideale, perché tutto questo discorso noi lo facciamo accettando che le squadre siano indebitate. Perché qua in Spagna le squadre hanno 300, 400, 500 milioni di debito, per parlare per esempio delle prime tre, e voglio dire, se non avessero questo debito, e anche le inglesi non avessero il debito che hanno, forse sarebbe più interessante il campionato e anche, non so, la Champions ne uscirebbe rivoluzionata. Sì. Ma tanto si parla di niente perché i debiti ci sono e nessuno li ritoglierà mai. Esattamente, al di là delle parole molto belle di Michel Platini ripetute più volte. Filippo, invece, allora l'altra sera Guardiola che dice Ibrahimovic si è adatto tantissimo, fin qui non mi aspettavo che desse così tanto, però poi in panchina. No, a me è piaciuto Guardiola non solo in questo frangente, ma poi nella bacchettata al procuratore di Ibrahimovic, secondo me molto interessante. In Italia non penso che i procuratori abbiano mai ricevuto questo tipo di messaggi. Ieri lui ha detto: è dovere primario del giocatore controllare le parole del proprio agente. Perché il procuratore di Ibrahimovic si è permesso di dire che nel Barcellona c'è chi pensa solo a segnare. Attenzione, Perché ha fatto 31 gol questa stagione, si chiama Leo Messi, ha appena vinto il pallone d'oro, ha fatto 8 gol nelle ultime 4 partite, forse penserà anche solo a segnare, però fortuna che c'è lui. E per la cosa di Ibra, sono curioso, adesso io sono a Saragozza, sto per andare allo stadio, vediamo cosa succede stasera, se gioca. Adesso Messi ha un ascesso al dente, quindi potrebbe anche non giocare, quindi in quel caso toglierebbe forse d'impaccio anche Guardiola. Però bisogna vedere come, io penso che alla fine Ibrahimovic giocherà, vediamo come gioca, come, cosa dice la sua mimica, se segna, se non segna. È interessante, è la testimonianza che al Barcellona, voglio dire, nessuno è intoccabile, prima cosa. E poi che, voglio dire, anche c'è già stato il caso di Henry, che stava giocando piuttosto male e si è fatto 2-3 mesi di panchina proprio senza colpo ferire. Sì. Poi è tornato, ha giocato bene, adesso tocca a Ibra. Ibra ha cominciato alla grande, voglio dire, ricordiamoci che nelle prime 5 giornate ha fatto 5 gol, sembrava, sì, sì. No, c'era questo tormentone, sono molto contento, le radio che lo strillavano in italiano. Poi, non lo so, qualcosa si è rotto, l'adattamento è progressivamente si è interrotto. E ora sta a lui di venirne fuori. Filippo, un attimo di pazienza, traffico, poi torniamo. Strade in diretta. Sulla 15 della Cisa si è formato 1 chilometro di coda per un tamponamento fra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Ci spostiamo sulla diramazione Gallarate-Gattico, code di 4 chilometri tra Sesto Calenda e Besnate in direzione della 8 Milano-Varese per lavori. Cantiere rimosso invece sulla 4 Brescia-Padova, ma rimangono rallentamenti e code a tratti tra Sirmione e Brescia Est in direzione Brescia. Traffico intenso a ridosso delle città per i rientri del fine settimana, code a tratti in particolare sulla 14 Adriatica tra Faenza e Imola verso Bologna, qui si avvertono anche le conseguenze di un incidente risolto. E infine code sulla 20 Messina-Palermo all'altezza di Buonfornello verso Palermo, sia per il traffico intenso che per un problema tecnico ai caselli. È tutto, noi ritorniamo più tardi. Tempo di sport. Volevo chiudere il discorso con Filippo Mariarici sul Barcellona, al di là del caso Ibra, che è inutile far finta di niente, esiste, però è chiaro anche che gestirlo in una squadra come il Barcellona sia anche piuttosto semplice, perché metti il giocatore di fronte ad una squadra che quando gioca è la più forte del mondo senza discussioni. Vista la partita dell'altra sera con lo Stoccarda, quella squadra è tornata secondo te, Filippo, o troppo fragili i tedeschi? No, i tedeschi si erano dimostrati più che dignitosi all'andata, perché avevano fatto comunque 1-1, insomma, sì. Sembrava una squadra di, avevano avuto le loro occasioni, quindi no, non direi in e la squadra è tornata, però forse un po' come prima il discorso che facevi per Menes, ancora un po' si accende e si spegne, no? Come la lampadina di Natale. Non è del tutto in salute. Adesso stanno giocando senza Xavi perché si è fatto male, torna certo. Un paio di settimane. E vediamo per esempio stasera se dovessero giocare senza Messi come va, e ancora c'è molta Messi dipendenza, e l'argentino ha segnato praticamente, non so, l'80-90% dei gol delle ultime 5 partite, è quasi tornata, possiamo dire così. Sì, certo che quando io vedo quella palla che gira come una trottola, vedo i ragazzini, Bojan Krkić e Pedro, che si buttano come saette nello spazio, e ovviamente con la qualità che hanno i centrocampisti del Barcellona gli fanno arrivare la palla col contagiri, dico vabbè, chi li batte questi? Sì, è così. E adesso guarda, la sfida con l'Arsenal è interessante, perché l'Arsenal è una squadra che non ha niente da perdere. No, sono 4-5 anni che non vincono nulla, però non è che contestano l'allenatore o pensano di cambiarlo. Hanno dei giovani molto interessanti, gli manca un po' di sostanza, hanno un grandissimo catalano che li guida, che è Fabregas, e ovviamente il Barcellona è favorito, però è una squadra che può dare del filo da torcere al Barcellona, perché se la giocherà teoricamente alla pari, no? Loro scenderanno in campo così. A me quello che piace proprio per chiudere del Barcellona è che comunque, oltre a tutto questo, al gioco così, questi scendono in campo con 8-9 ragazzi cresciuti nel vivaio, 7-8 spagnoli, per non dire quasi tutti catalani. Insomma, sono segnali molto molto interessanti rispetto a quello che ovviamente poi si vede magari a Madrid o anche rispetto all'Inter o altre squadre. Certo. Questa è una cosa, secondo me, da tenere in ulteriore considerazione. Grazie Filippo, buon lavoro laggiù. Grazie a voi, un abbraccio. Grazie Filippo Maria Ricci. Dario Ricci mi ha raggiunto e stento a credere ai miei occhi parlando di basket, perché c'è la diretta di Roma-Siena, basket di cui parleremo, ve lo ricordo, alle 8:30 alle 9. Però intanto cominciamo a darvi questo preview. Sì, eravamo sorpresi Carlo a vedere il punteggio, pensavamo un errore, invece no, Roma conduce 35-19 su Siena quando mancano 6 minuti e 14 all'intervallo lungo. Giachetti proprio ha realizzato il suo 8° punto in questo istante, quindi insomma l'ottomatica che cerca l'impresa contro la capolista, la dominatrice indiscussa del campionato. Rapidamente gli altri risultati della settima, quando siamo intorno alla metà del secondo periodo di gioco: Cimbario Varese, Benetton Treviso 31-26, Armani Jeans Milano, Banca Tercas Teramo 33-19, Angelico Biella, NGC Medical Cantù 28-33, Canturini in vantaggio, Scavolini Spar Pesaro, Sigma Coatings Montegranaro nel derby marchigiano 37-36. Stasera alle 20:30 Air Avellino Canadian Solar Bologna, e gli risultati già acquisiti a partire da quello ottenuto nel anticipo delle ore 12 con il successo di Caserta, della Pepsi Caserta, sulla Vanoli Cremona 87-85, poi la vittoria scontata della Carife Ferrara sul campo di Napoli 176-50. 35-21, più 14 sono tanti per il vantaggio di Roma su Siena, ancora molto presto, e comunque è una partita che non cambia nulla, perché l'unica cosa è che Siena cerca la stagione perfetta, e questa era probabilmente l'ultimo mini ostacolo sul cammino dei toscani. Vediamo come finisce, e comunque si conferma il fatto che se c'è un allenatore che può dar un minimo di fastidio a Siena è quello che siede sulla panchina della Lottomatica, si chiama Matteo Bonicioli. Io riprendo a parlare con gli ascoltatori. Umberto, provincia di Salerno, e Fabrizio da Lecce. Ciao Umberto, buonasera. Buonasera, salve, complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo dire, spendere delle parole sul Napoli, che sono un tifoso del Napoli. Che cosa ne pensa di questo Napoli, se può raggiungere un posto in UEFA, se ha la potenzialità di poterlo fare? E poi, punto due, vorrei fare un'altra domanda. Prego. Ho sentito ora da alcuni giornalisti, non via radio, ma per televisione, di questa delusione del Milan, che non riesce, è giusto che ci sia stata la delusione, però bisogna dare anche un plauso a questo Napoli, venendo da una sconfitta di 3-1 in casa con la Fiorentina, andandogli a San Siro con 60.000 diavoli tra virgolette, sì. E pensando che lì si giocava la vita, bisogna dare anche un plauso anche al Napoli, come abbiamo fatto bene. Ma come abbiamo fatto ampiamente in apertura per il Napoli, insomma, può valere in parte il discorso che ho fatto prima per la Roma. Era una squadra non solo che veniva da una sconfitta con la Fiorentina, ma che veniva da un momento molto difficile, da un momento di flessione, da un momento di appannamento anche fisico. Oggi ha giocato una straordinaria partita, soprattutto nel primo tempo. Quell'1-1 era bugiardo a mio parere, perché al Napoli mancava certamente qualcosa in quello punteggio, no? Napoli ha giocato meglio del Milan nel primo tempo, nel secondo tempo ho avuto l'impressione che la partita si sia un po' spezzata e abbiamo visto tante occasioni da gol diverse da parte del Milan, alcune anche clamorosa, quella di Quagliarella con la grande parata di Abbiati che ricordavo prima per il Napoli. Però oggi il Napoli ha giocato una signora partita a Milano, ripeto, specie nel primo tempo. Se possa arrivare in Europa League certamente lo può fare, in Champions League ho qualche dubbio in più, perché quel quarto posto mi sembra un po' lontano, e mi pare che il Palermo sia migliore come impianto di gioco, come qualità e anche come momento attuale rispetto al Napoli. Quindi Palermo, poi vediamo cosa fa la Juventus, anche se lì lo psicodramma continuerà, l'impressione, fino alla fine. Però Napoli certamente può arrivare in Europa League, oggi ha giocato una signora partita. Fabrizio Lecce, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Niente, io volevo praticamente precisare che non ero molto d'accordo sul discorso, sulla definizione piccolo campionato. Piccolo, mi scusi, non ho capito. Piccolo campionato, come è stato definito nell'intervento con il giornalista in precedenza. Purtroppo noi pensiamo spesso che quando un campionato viene ampiamente vinto da una squadra è un piccolo campionato perché è scarso. Quando poi invece una squadra, la prima in classifica in questo caso, fa 8 punti, 7 partite, è perché è piccolo campionato. Penso proprio che è un bel campionato invece da questo punto di vista. Che ne pensa lei? Ma io non credo. A me sembra un campionato piuttosto scarso dal punto di vista qualitativo. Fabrizio, non sono d'accordo. Credo che, insomma, che il solco tra l'Inter e tutte le altre sia profondo. Credo che il fatto stesso che il Milan, con tutti i limiti che ha, limiti che l'Europa ha messo a nudi in maniera impietosa, sia ugualmente lì a un punto in corsa per quello che si vuole, eccetera, sia il segno di un campionato che di alto livello non è. E d'altra parte, insomma, quando c'è un'egemonia così lunga, una tirannide così lunga, sto guardando il basket, anche per il basket si fanno questi discorsi, no? Con Siena che ha vinto gli ultimi 12 scudetti, 12 no, però comunque tantissimi, e anche questo non è in ballo e non è in discussione, insomma, non riesco a dire che sia, anche se magari oggi perde a Roma e sarà la prima sconfitta stagionale, non riesco a dire che sia un campionato avvincente, appassionante ed equilibrato. Trovo che, insomma, anche probabilmente per effetto della crisi economica, il solco si sia tremendamente ampliato tra l'oligarchia di quelle, ripeto, nel calcio come nel basket, e vogliono vincere in Europa e quindi spendono di conseguenza e hanno organici conseguenti rispetto alle altre. Io in tutta onestà la domenica non mi diverto a vedere le partite del nostro campionato. L'Eurolega per il basket, la Champions League per il calcio sono un altro film, questo mi sembra palese. Dario, qua magari ce la fanno, 41 a 28 per Roma, 3-0-5 all'intervallo. Eh sì, direi che poi tra l'altro da quello che vediamo è proprio un po' il meccanismo offensivo senese che sembra un po' inceppato, no? Quindi questo staremo a vedere poi alla sirena finale. Intanto gli altri parziali, Varese Treviso 35-32, siamo intorno all'intervallo tra lungo, Milano Teramo 36-22, anche qui milanesi in netto vantaggio, strettissimo invece la sfida tra Biella e Cantù, 34-35 per i canturini, Pesaro Montegranaro addirittura pari 45, pari appunto a un minuto dalla sosta. Io chiudo con Giovanni da Rimini, buonasera. Buonasera, sì, io mi stavo chiedendo una cosa, cioè di un commissario tecnico che vorrebbe naturalizzare un centravanti brasiliano, cosa dovrebbe fare Marti per fare contento Lippi? E mi chiedevo, presi uno per uno i giocatori dell'Inter, sì, con chi potrebbe sostituirli con giocatori italiani, cioè il portiere, i centrali di difesa, i centravanti, queste cose, quali sarebbero i giocatori italiani che potrebbero permettere di fare una squadra dello stesso livello? Sì, più che altro mi vengono i brividi e verranno anche a lei a pensare alla difesa con cui presumibilmente andremo in Sudafrica. Sì, e poi per concludere, io penso che se l'Inter in questi anni ha privilegiato l'acquisto di giocatori stranieri, un motivo c'è, sì, cioè che il mercato fosse in mano ad una cricca ben definita. Ma no, mi sembrano tutti discorsi inutili che lasciano il tempo che trovano, anche perché io non riesco a fare all'alba del 2010, parlando di calcio come di basket, non riesco a fare una distinzione tra giocatori italiani e giocatori stranieri. Distingo i giocatori in quelli bravi e quelli scarsi, quelli costosi e quelli che invece autorizzano a parlare di affari in termini economici. Quindi mi sembra una disputa molto stucchevole questa innescata da Lippi: l'Inter non è calcio italiano, piuttosto che la Juventus è calcio italiano, cosa deve fare Moratti a far contento Lippi? Ma chi se ne frega, secondo voi a Moratti interessa qualcosa a far contento Lippi? No, la distinzione oggi è tra chi è abile e prende buoni giocatori ai prezzi giusti e chi non riesce a farlo. Quindi l'unico discrimine che riesco a trovare è questo. Io e Dario Ricci vi aspettiamo alle 8:30 per dirvi tutto su questa giornata di basket. Chiudo con questo parziale, 2 all'intervallo, Roma 43, Siena 33. A dopo.